Il nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per uno come Parenzo, che odia Vanna Marchi, mi dice che quelli lì che per la fede spendono 3 euro per inginocchiarsi vanno bene malati terminali. Parenzo, ma che cazzo dici? Però effettivamente il paragone tra Padre Pio e Vanna Marchi non è del tutto sbagliato. Una stupidaggine. Tra i venditori, più che Padre Pio, i venditori, gli spacciatori di Padre Pio e Vanna Marchi, beh, più o meno siamo lì, ragazzi. Più o meno siamo non lì. Non c'entra niente. Cioè, dai, offrono, offrono il paradiso, ma offrono la salvezza. Ma non c'entra niente. Ma c'entra, come si fa c'entra, a dire una c'entra, roba c'entra, simile? C'entra. Non devo difendere io, ma difendo il senso religioso, dal latino religio. Religioso. Ma certo, cioè, no, quella, come si fa a paragonare la Vanna Marchi, che è una truffatrice condannata, con una credenza religiosa che riguarda milioni di persone e che non fa male a nessuno, peraltro. Non offende nessuno. Non fa male a nessuno, bisogna vedere. È una bestemmia, ma non devo difendere io delle cose che non appartengono alla mia... Guarda, gli spacciatori, compresi quelli che stanno al Vaticano, di Padre Pio sono uguali alla signora Marchi, detto con tutto rispetto della signora Marchi. Ma come fai a dire rispetto? È una stupidaggine detto con tutto assoluta, rispetto della signora dai, Marchi. Ma è un'offesa a milioni di fedeli. Tra l'altro oggi abbiamo sentito un signore che ha scritto un libro su Padre Pio, che racconta questa storia delle stimmate di Padre Pio. È tutta una buffonata, sì, lo sai, vecchia sì. roba, Padre ma Pio, che vecchia beato roba? Impostore, contro la storia di Padre Pio, si chiama Mario Guarino, edizioni Caos, c'ho il libro in mano. Beh, ma dai, lì vai, le stimmate, è tutta una buffonata, amico ragazzi mio. Ragazzi miei, roba dai, vecchia, su. Roba vecchia. La vecchia, vecchia sì, morta vecchia. Senti questo fedele di Padre Pio, ho sentito il suo profumo. Senti, ho sentito il suo profumo. Gente che è stata 2-3 ore in fila, 2-3 ore, 4 ore in fila lì. Tipo le cose che succedono in posti, diciamo, più che medievali, l'ho già detto. Cioè, arretrati, cioè le processioni, ecco, le processioni, quelli poi con l'inchino al mafioso, invece dell'inchino al mafioso qui c'è l'inchino alla salma di Padre Pio, che è come la salma di Lenin, quella dei vecchi tiranni sovietici, no, venivano imbalsamati, ecco, la stessa cosa. La differenza è che Padre Pio non ha mai fatto nulla di truculento, anzi ha dato speranza a milioni di persone. Beh, non glielo dire. Ma perché io ebreo devo difendere questa roba? Che c'entra che mi fai sei ebreo? Arrabbiare, ma no, ma perché se io che devo difendere la roba di Padre Pio, perché no, tu difendi anche le cose, sì, la rispetto e il senso religioso. Ma ti pare normale che uno quando blocca tutto? Quando non è violento, come in questo caso, vabbè, è genuino, sincero. Ma sincero, allora, tutto va bene, che vuol dire? Ma tutto, dai, sì, insomma, il rispetto. Il nome della... Ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto. Sì, ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto. Sì, sì. Lo so, uno lo non so. Può giudicare queste forme, no. Delle paragonare forme di arretratezza. Vanna Marchi è una bestemmia. No, Vanna Marchi, Vanna Marchi. Io mi offenderei, forse. Io non ho detto Padre Pio a Vanna Marchi, ho detto prima in peggio. Gli spacciatori di Padre Pio, quelli che vogliono vendere il prodotto Padre Pio. E chi sono? Beh, quelli prima Padre Pio, quando era vivo. Allora vedi che e dopo detto, gli altri che vogliono vendere questo prodotto come miracoloso, come la salvezza. E ho sentito un gran profumo a un certo momento e ho sentito l'odore di Padre Pio. E la sera mi sono sentita meglio. Beh, ho sentito il suo profumo. Ti si ritorcerà contro questo. E la sera questo. Stavo bene. Bellissima questa cosa. Ho sentito il suo profumo e la sera stavo bene. Ma se la gente come la giudichi questa cosa te? Io giudico ho che se uno ritrova il suo speranza profumo. Anche io non ci credo, perché sono, come ti ma ripeto, dai. Di un'altra roba e non dai, mi interessano direbbe, queste cose direbbe Mughini e dai. Ma se uno trova conforto in questo e non c'è d'accordo. Commercio di denaro, trova conforto siccome nella fede di siccome c'è benissimo di non c'è nessun commercio che la fede come uno c'è, non c'è, occorre c'è. Che compra gadget o roba non c'è, c'è nulla c'è commercio di denaro voglia che non c'è. Se uno ritrova conforto anche in questo, tutto tutto ciò che dà sollievo all'animo va bene. Tranne allora, le truffe, il mitologico Massimo Fini dice che padre Pio, visto che è così santo, se protegga da solo invece di vedere. Tra l'altro, la regione Puglia ha stanziato, è venuto fuori nei giorni scorsi, non è notizia di oggi, 20 naturalmente. Euro, no, 100.000, altro che 20.000. 100.000 soldi nostri. Vabbè, quello per questo trasbordo. Ma che trasbordo? Ma che c'è? Del trasbordo della Salma Roma. In generale, la presenza. Beh, intanto quello è di competenza della regione Puglia. 100.000. Ma la presenza di padre Pio, insomma, della sal, di quel che rimane. Ma fammi sentire Massimo Fini, dai, su, il turismo in Puglia. Che cazzo ci frega, dai, Massimo Fini. Non mi va che questa traslazione di questa salma comporti l'impiego di 1.000 agenti dello Stato italiano, cani cinofili e una serie di spese. Il santo faccia il suo viaggio, lo proteggano le guardie svizzere o si protegga da solo, visto che è santo. Beh, questa è molto bella, devo dire, da parte di Fini, che dice, visto che è santo, si protegga da solo un po', si protegga da solo. Ma ti pare normale che io devo vedere i carabinieri accanto alla salma di padre Pio? Divento, vado ai matti, io, i carabinieri pagati anche da te. Pagati anche da te, Parenzo, vabbè, non è che non sono pagati. C'è di peggio, non mi scandalizza per niente. Ma è chiaro che c'è di peggio. No, è peggio la 'ndrangheta, è peggio la mafia, è peggio la camorra. Io sono peggio i pedofili, laico, su questo non c'è dubbio. No, ma io che vedere sono un laico, carabiniere accanto a padre Pio, imbalsamato, lì, incerato, solamente per portarlo lì, a me mi fa andare i matti. Ma se lo portassero loro in Vaticano, sono pieni di quattrini. Vogliono esporre padre Pio al Vaticano. Se lo portassero da solo, non mi fare incazzare con questa cosa. Bisogna porre un limite a un certo punto, no? I carabinieri no, accanto a padre Pio, li pago io. Voglio i carabinieri per strada a combattere la mafia, a combattere la camorra, a combattere la 'ndrangheta, no accanto a una salma. Basta. Che cazzo, i carabinieri, mi fai arrabbiare? No, mi fai arrabbiare. Cioè, come tu ti arrabbi su altre cose, mi fai arrabbiare. Com'è possibile concepire l'idea che i carabinieri per delle cose indigno, minimali, mi arrabbio per un secondo, poi ruba, basta. Per i reati. No, mi indigno anche cioè, per quello. È incredibile, fai le tue filippiche su cose minimali che investono milioni che di fedeli e invece difendi quella quel bandito chi? Di Vanna Marchi. Ma guarda che è ma io incredibile. Io sto difendendo Vanna Marchi. Ma sei... no, hai difeso per anni quel bandito di Vanna Marchi e ora attacchi milioni di fedeli che credono in un poveretto che è disteso, gira per Roma con una salma e dall'altra parte quella vendeva sale, ricattava e tu la difendevi. Ma guarda che è il mondo al contrario e fai passare per me come un matto. Ma non c'è più, fate presto, cacciatelo via, non ne posso più, cacciatelo via, fate presto, cacciatelo via. Non ne posso più. No, ho fatto difeso Vanna Marchi. Presto, non ne posso più. Cioè, è il mondo al contrario, cazzo. Ma come si fa? Ma veramente? Ma non è. Ma è il mondo al contrario. Difendi i banditi, quel poveretto. Cosa avrà fatto? Le stigmate, va bene. Non vuoi le stigmate? Lascia stare le stigmate. Ma che t'ha fatto quello? Che t'ha fatto quell'uomo là? Quello è un santo. Non potrò è lì, essere qualcuno incazzato. Ci crede. Quell'altra è una bandita. L'hai di... Vabbè, ma guarda che è incredibile. Ma è il mondo. Cioè, veramente. Non ci sono più, è vabbè. Tutto all'inverso. E intanto in tutto questo bailam, in tutto questo adesso? Casino con Affittopoli, eccetera, il presidente della Camera legge sui gay da approvare, l'economia, vabbè, che cazzo ci frega dell'economia. Noi, il presidente della Camera Boldrini, che ha fatto? Signora, quello Boldrini. Scandalo di oggi. No, no, è sullo scandalo. Ritorna a parlare della storia dei nomi al femminile. Dei chi nomi se al ne femminile. Frega anche di chi questo, se ne frega, non c'è dubbio, chi se ne frega, a me lo dici. Sta crollando il mondo, qua è contadino. Nomi della donna femminile, contadina e operaia. Poi parli tu di padre Pio, che domenica ci farai una mezza puntata tutta su padre Pio. Ma certo. Non rompere i coglioni allora. Ma io perché ci credo? Ma no, ma io non dico questa aspetta, cosa. Aspetta, qui. aspetta. Contadina e operaia. Mi tutto scrivono, mitico cruciale, difese pure lo stalliere certo. di Arcore. Guarda, mi hanno scritto adesso. Ma che c'entra lo stalliere di Arcore? Ma che dice, cazzo dici? Riuscito io a difendere pure lo stalliere di Arcore. Adesso mi attacca un signore che poverino è lì che gira io per Roma. Non ha fatto difesa lo stalliere di Arcore. Scusa. Io non ho fatto difesa lo stalliere di Arcore, non dire minchia. E diglielo a questo ascoltatore. Beh, io lo dico, non ti preoccupare. Adesso. Boldrini, sentiamo. La contadina è appurato che si dica la contadina declinandola al femminile, l'operaia. Poi però quando arriviamo all'avvocata già cominciano a storcere il naso, no? L'avvocata è cacofonico, non si può sentire. L'ingegnera men che meno. Quando saliamo ancora di più, la sindaca o la ministra diventano delle provocazioni. Ma semplicemente perché suona male, non me ne frega niente. Uno dice contadina perché suona bene, operaia perché suona bene, ma sindaca suona male, ingegnere, è orrendo, ingegnera, è terribile. Solo per questo non c'è una non è un impedimento alla crescita delle donne, questi termini orrendi, o all'emancipazione, queste cose. No, non c'entra niente, è una questione spesso, no, di pronuncia, viene meglio, non c'è niente, non c'è discriminazione, basta con questa storia, non ne posso più. Feltri vuole fucilare tutti i politici. Meraviglioso, ieri sera virus contro Fassino. I politici non sanno amministrare, non bisognerebbe chiedere l'abolizione della carcerazione preventiva, ma bisognerebbe chiedere la fucilazione preventiva, perché hanno trattato il patrimonio pubblico come se fosse uno straccio. L'obiezione, caro direttore, che dovrebbe smetterla di generalizzare. Magari si candidi a Milano, così lei si candida a Milano, fa fuori i politici, io non generalizzo. Siete lei dei ha parlato di politici, lei ha parlato di politici. Come se io parlassi di giornalisti, sì, certo, e dicessi che tutti i giornalisti... Stupidi, o no. Stupidi o ladri. Va bene. Scegliete direttore, voi, o siete cretini, direttore, o siete ladri. No, guardi, mi dispiace. Sì, ci sono anche le persone serie che fanno seriamente il loro lavoro. Come fa lei seriamente il suo lavoro da giornalista? Dove sono? Non generalizzi. Lei sta da 20 anni, è indipendente da uno che ha mandato a fondo l'Italia e si mette a dare lezioni di moralità. Ma da quale pulpito? Ma da quale pulpito? Si candidi a Milano e vediamo come lei amministra. Ma per favore, aboliamo la carcerazione preventiva. Buoni, basta, non si può fare tutto questo. La fucilazione preventiva per voi persiani politici straccioni, siete degli straccioni. Greta! Ma pazzesca, non l'avevo mica sentita. Ma è pazzesco, incredibile. Siete degli straccioni, siete degli straccioni. È impazzito. Io mi candido a fucilarvi, o siete cretini o ignoranti. Bellissimo. Ma cosa è successo? E Feltri era impazzito contro i politici, sulla storia di Affittopoli, non so, su altro ancora, tutto lo scibile umano, su tutto, la politica in generale. È tornato il Feltri, no, ti ricordi, quello indipendente, tutti in galera. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Vabbè. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it. Vi presento La Zanzara. Allora, caro Davide, io comincerei questa serata facendo una telefonatina a uno dei nostri preti preferiti. No, secondo me dobbiamo... Che dobbiamo fare? Chiudere dobbiamo tutto? Dobbiamo chiudere qua. Chiudere qua, me sì, lo ha scritto anche chi? Gabriele, mio cugino che sta a Mantova. A Modena, scusa. A Modena. No, non è né a Modena né a Monza. A Monza, e allora? Gabriele, mio cugino di Monza, che ha detto dopo la cosa di ieri, fantasmi, che nella villa lì, quello che inseguiva Teodolina. Sì, basta, è tutto finito. Dopo Padre Pio. È meglio veramente, fidati, chiudere qua. È stata una bella esperienza, forse chiudi qua, perché non si può più, è tutto, cioè non c'è più. Io mi taccio, guarda, perché non c'è più niente. No, però io chiamerei il nostro prete preferito. Sì, cioè, ma chiudiamo veramente. No, ma Don Farinella, lo vuoi sentire Don Farinella? Secondo te Don Farinella che cosa dice su Padre Pio? Ci manca solo Don Farinella. Non lo so, mi auguro che lo difenda come l'ho difeso io, che non sono di questa parrocchia peraltro. Ari, dai, ma che partito. Cazzo ci frega in questo caso, dai. Pronto? Don Paolo? Sì? Sono Cruciani, come stai? Ciao, Cristiano, sto molto male. Ma che è successo? Perché ho preso, tra le altre cose, il fuoco di Sant'Antonio. Porca miseria. E brucia, che l'ho diviso. Ma dov'è? Ha il nome di un santo, ma in realtà brucia no, questo è il santo dei maiali, capito? Come il santo dei maiali? No, questo non si può. Sì, è Sant'Antonio Abate, questo qui. Come? È quello dei porci. No, non si può dire questo. Perché no? No, perché è santo protettore degli animali, no? Ma come si guarisce dal fuoco di Sant'Antonio? Con della pomata. Ci vuole le tempo. Adesso sono già 3 settimane che io sono così. Don Paolo, chieda un miracolo a Padre Pio, no? No, ma manco per la capa, manco per la capa. E perché? Magari può fare... No, sono quelle cose, non ci credo proprio. Non ci crede? È un prete, però, no. Scusi. Perché dovrebbe credere in Padre Pio? È un prete, voglio dire. Adesso non devo difendere io Padre Pio, che sono di un altro, come dire. Ma io sono un prete cattolico e sono nella totale ortodossia. Ma scusi un attimo. Io non ci credo, perché ritengo che siano forme ancestrali e superate. Cose medievali, dai, cose medievali. Peggio, cioè? Ancora prima. Ancora cioè? Prima. No, dico, sono cose ancestrali, quindi ancora preistoriche. C'è tutta questa gente di magia, che... forme magiche. Tutta questa gente che va lì a vedere questo cadavere, no? Proprio una forma di immaturità da un punto di vista religioso, che è più gratificante, perché tu vai a toccare, vai a questa cosa e poi questi cadaveri che vanno e vengono, insomma. Se uno è morto bisogna lasciarlo sottoterra oppure bruciarlo e non se ne parli più. Sì, non è che si possono... Di esporlo come un totem, tra l'altro tutto incerottato, lì tutto incerato, perché tutta cera. Certo, tutta cera, tutto incerato. Ma insomma, una roba veramente da... Non è una cosa seria, guarda, secondo me... E perché il Vaticano ha voluto fare sta roba così? Perché Papa Francesco ha voluto fare questa cosa, prima di tutto perché è argentino, è latinoamericano, dove la devozione popolare è fortissima. Secondo, perché si trova in una chiesa frantumata e ha bisogno di una chiesa frantumata, e ha cercato in questo modo di dare un colpo a quelli che lo criticano, perché lui, il popolo è con lui. Ma lui com'era sto Padre Pio? Qualcuno dice... Io non ho mai creduto in questo Padre Pio, ritengo che sia un mezzo truffatore, diceva. Più che lui quello che c'è, così, cioè una mistificazione, anche perché non te stima queste cose qui. Ma dico, le stima te se le faceva da solo? Giugorio è diventata la Madonna, è diventata proprio un'impiegata delle poste che lasciamo perdere. Ma le stima te se le faceva da solo, secondo lei? Bisogna trovare una spiegazione. Ma non mi dica che lei crede... Una forma isterica può essere qualsiasi altra cosa. Oggi abbiamo i mezzi per appurarlo. Appunto. Anche Papa Giovanni XXIII lo chiamava come un invasato, lo definiva come invasato. Un invasato, insomma, no? Sì. Lui e tutto quello che si è creato attorno. Vabbè, ma se stima di mica possono essere, no, un segnale divino, dai, diciamo la verità. No, ma io non credo nemmeno a quelle di San Francisco. Senti, Don Paolo, ma questi qua che sono andati al Family Day, questi cattolici, questi politici cattolici, quelli vanno tutti da Padre Pio, Sì, dici, no? Sono tutti vanno tutti da Padre Pio. C'è Gasparri, quelli che in tutti questi anni hanno sostenuto, cioè tutto l'immorale che c'era nel mondo, sì, lo hanno appoggiato, la corruzione, eccetera, eccetera, poi vanno alle Family Day con chi? Con Gasparri, con Brunetta. Gasparri, con Brunetta. Con Giovanardi, i gemelli Giovanardi. Ma ti rendi conto? Una cosa. Ma Gasparri, no? Signor Gasparri, che ha detto quelle cose sugli handicappati. Ne dice una della filosofia medievale che nemo d'atte quod non habet. Cioè? Lui ha dato quello che è lui. Ah, dici? Vedi che l'ho capito il volo. Certo. Ha dato quello che è lui, c'era un handicappato. Gasparri ha mai avuto un'idea in vita sua. Secondo te un bambino può crescere dentro con due uomini? No, penso di sì, perché è meglio che in un orfanotrofio. Diciamo che è indispensabile che ci sia nell'affettività, che ci sia l'elemento maschile e femminile. Ho capito. Questo non necessariamente è dato da un uomo o da una donna. Ah, tu dici anche un uomo può avere un atteggiamento femminile. Diciamo che per esempio in quasi tutte le culture gli maschi sono assenti nella educazione dei figli. Due uomini, uno può avere... Due uomini possono essere, uno o due, tutte e due possono essere più materni. Io, guarda, che mi occupo anche di bambini bambini, di bambini sì. piccoli, a cui paghiamo la psicoterapia, perché sono stati violentati dentro le mura domestiche. Da coppie eterosessuali. Da coppie eterosessuali. Cioè. Va bene, ciao Paolo. Ciao Paolo. Comunque, Parenzo, è pieno di libri, non citare solamente quello, è pieno di libri in cui la vicenda delle stigmate là viene presentata come una truffa vera e propria, questa roba qua delle mani, le stigmate là, cioè una truffa col farmacista che gli vendeva, con testimonianze dei farmacisti che vendevano l'acido al santo. Dai, perché su, devi ragazzi. Entrare nel merito di cose che non si... Allora, se uno crede a questo, c'è il rispetto della fede, ma che c'è vuol anche dire il rispetto del ma... Vaticano a un certo punto, ma su che questa timbro, cosa là, c'è tutta una trattativa, ha ci fatto fu dai. Male a qualcuno Padre Pio? No, ma se mai vuol ha fatto soltanto del bene. Dire, ma non ora, vuol dire niente. Questo tuo attacco nei confronti di questo povero Padre Pio. Ma io non mi attacco, Padre Pio è morto. Mi stupisce molto. Ma ti no, ma anche pure. Tutta questa gente che ci crede. Mi stupisce. E mi stupisce che mi tocca a me, ebreo. Giovane ormai non più, perché tra poco compirò 40 anni, quindi ebreo non senti, più però giovane, facciamo incazzare qualcuno. Facciamo incazzare qualcuno con. Vabbè, l'hai già detto. Fammi offrire in pasto agli ascoltatori questo signore che si chiama Benito Scarpetti, uno che paga 140 euro di affitto per 108 metri quadrati in via del Colosseo. In via del Colosseo, a un certo punto, quando i giornalisti vanno là, dice che c'erano le cimici, che ha speso tutta la liquidazione per ristrutturare la casa, le solite cose, no? A un certo punto dice: Pio l'accetta, brutti infami, ma avete rotto il cazzo. Scarpetti, sono Benito Scarpetti. Pio l'accetta, brutti infami. A un certo punto con i giornalisti là, Pio l'accetta, brutti infami. A dopo, dai, 800 24 00 24. Il mio ragazzo mi dice di stare zitta quando c'è la zanzara. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano, speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24, la passione si sente anche al festival. La Zanzara. Quando non ci sei io ti penso, cazzo, io la zanzara è parte della mia libertà, quando penso alla mia libertà penso alla zanzara, cazzo. Beh ragazzi, io quando ascolto la zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera. Allora, qualcuno ci ha scritto: ve la pigliate con i poveracci che affittano le case a 190 euro al mese? Ma no, abbiamo detto che il problema non è quello, il problema è la gestione complessiva da parte del comune, che potrebbe fare un sacco di soldi, soprattutto quando affitta ad associazioni, quando affitta ai partiti. Ma tu ti rendi conto che il Partito Democratico, non so quanti, e non solo il Partito Democratico, un sacco di partiti devono... chi 170.000 euro una sede, chi 140, chi 150, chi 90.000 euro, partiti che peraltro prendono il finanziamento pubblico, capito? Che fino all'altro ieri, ancora oggi lo prendono, prendono il finanziamento pubblico, dovrebbero dare i soldi a un altro ente pubblico, il comune, affitti peraltro bassissimi, affitti di favore, eccetera eccetera, e non pagano, sono morosi, cioè siamo veramente alla follia più totale, alla follia. D'altra parte la follia è talmente grande. Ah, tu vuoi parlare con Parenzo? Chi è? A Dottore non c'è. Chi è? A Filippina a casa Parenzo, a Dottore non c'è, uscito. Ma chi era? A Dottore è andato fuori Padre Pio, non c'è Dottore, Dottor Parenzo, non c'è. Chi parla? Chi ha chiamato? Parenzo, sto cercando Parenzo. Pronto, dottore, non c'è, è uscito Padre Pio. Sei tornato a casa, che hai fatto? Lascio dentro, chi parla? Cluccani? Cruciani? Sì, Cruciani. Ah, dottore, sì. Non c'è, è uscito. Vabbè, la follia è talmente grande che un ex deputato, un ex democristiano, se non sbaglio, che si chiama Pellizzari, che è stato condannato, anni fa, ha riabilitato, è stato riabilitato, no? Perché in Italia esiste pure la categoria, la riabilitazione. Beh, sì, giusto, giusto, ma che giusto, no, la riabilitazione. Ma che vuol dire riabilitazione? Non vuol dire niente. Comunque ha riabilitato. Cioè, marchiato a vita. Ma no, infame, ma marchiato. È stato riabilitato. No, ma non è quello. È condannato. Sì. Basta, no, infame, maledetto. Condannato. Poi vabbè, vieni riabilitato. Però beh, aspetta, sì, cosa serve questa cosa? Aspetta. Uno può dire, no, per riacquistare i diritti civili, cioè per votare, essere votati, e vabbè, questo potrebbe anche essere normale. Ma grazie a questa roba, l'ex deputato condannato ha riottenuto il vitalizio con gli arretrati. Cioè, lasciò il Parlamento a 48 anni. Questo è curioso. Gli hanno restituito 5.400 euro al mese per un totale di 30.000 euro. Ragazzi, siamo veramente al paradosso, alla follia. Cioè, tu vieni riabilitato e ti ridiamo gli arretrati del vitalizio, che già è uno scandalo il vitalizio. In più gli abbiamo dato pure gli arretrati, perché ha ottenuto la riabilitazione. Ma vai a fare in culo! La roba è incredibile, dai, incredibile. A proposito, dicono... Questa è bella, l'ho letta da qualche parte, non è mia, eh? Non dico mai quello che non è mio. Il partito di Alfano è molto combattuto per la legge sull'adozione gay, sui matrimoni gay, lo sai? Cioè, perché? Anche Alfano stesso è molto combattuto. Cioè, è diviso in due. C'è Alf che non è d'accordo e Ano che è d'accordo. Di chi è questa? Sulla legge. Non è male, da ieri che di ci penso mi fa pisciare tra risate. Ma l'hai fatta tu? No, sì. non è mia. Cioè, il partito che effettivamente è combattuto, diviso in due. C'è Alf che non è d'accordo. Ho capito. Dai, sembra una cazzata, però da ieri che rido. Da ieri io che rido, guarda, quando cosa. Adesso, anziché prendere le distanze, quando sento una sciocchezza, dico, dottore non c'è, è andato via. Ma questa non è una sciocchezza, questa dottore bella... non c'è. Dai, dottore carina, è andato via. Ma non è brutta questa, dai. Cluccani? Dottore non c'è, torna a casa 9 di sera per mangiare, dottore non c'è. Mi ha chiamato uno, mi ha detto dal Brasile, da Recife, mi ha mandato un messaggio. A noi non ce ne frega niente della zanzara zica, ci piace solo la fica al carnevale. Il dottore è andato via per il semple, non c'è dottore. Ci sono dei geni in circolazione che noi non riusciamo a capire bene, non riusciamo a raccogliere gente, la genialità. Come dice quello lì, c'è gente in giro, com'è che dice? Tu devi sapere che da mesi c'è una cuffia qui allo studio principale che è rotta. Cioè c'è un affare drindlon di metallo. Cosa che si io? Sente. No, per dirti, no? Io ogni tanto c'è una cuffia, non si capisce perché non viene cambiata sto fate cazzo presto, di cuffia. Perché non è difficile, no? Fate presto! Allora, c'è una cuffia che ti faccio sentire il rumore, guarda. Lo senti il rumore? Se io la lascio, sento il rumore della cuffia del cazzo. Guarda, rotta la cuffia, rotta. Cambiate la cuffia! Ma no, bisogna chiedere ai sindacati. Aspetta, cosa vuoi cambiare? Aspetta, ti faccio vedere. Se io mi muovo adesso, mi muovo la testa. Ma bellissimo, ma giusto. Ma è incredibile, guarda. Oh, finalmente una buona notizia. Cominciamo a scassare questa radio. È un'ottima notizia il fatto che ci sia una cuffia rotta. Bisogna rompere tutto. Interrompete. Devo fare intervenire la Digos qua. La Digos. Fabrizio da Roma, 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Cominciamo con le stupidaggini. Dai, che sono carico, dai, sono carichissimo. Cominciamo dai. Adesso a sentire la gente che chiama. Ma forza, non fare vediamo. La persona stanca il venerdì alle 19.23. No, bisogna essere carichi. Manca un'ora e mezza ancora. Vediamo se chiama Fabrizio, qualcuno. Dai, forza. Va bene che hai lavorato tutto il giorno, non per noi, per altri. Però va bene, dai, per Fabrizio. Tutti ho lavorato, per tutti. Per tutti, per flusso di notizie. Ma quale notizie, cazzo ci frega. Fabrizio, vai. Sentiamo Fabrizio. Oh, intanto alla caffarella, vedi che si sente il rumore di questa minchia di cuffia? Ma mica è colpa mia, alla io sono no, tu non c'entri, per una volta non c'entri. Alla caffarella pare che una sinella legata è stata violentata dal suo pastore, sì, al parco della caffarella a Roma. No, ho letto sul Messaggero, e che ti devo dire? Cioè, poi scusa, c'è un'altra follia animalista. Sono occupato. Sì, scusa, no, per carità, ti sei occupato sinella di altri. No. Violentata al parco della caffarella. Fabrizio da Roma, mia, dai. Sta crollando il mondo, parla dell'asino. Non c'è più, che? Angelo da Roma, dai. Richiamatemi sto Fabrizio, dai. Che gente. Angelo, dai. Ecco, ci sono. Vai Angelo, dimmi. Allora, oh, secondo. Che volevo sottolineare una cosa ieri di quello che ha detto Oliviero Toscani. Ha perfettamente ragione, perché lo sguardo di Padre Pio è tipico dello schizofrenico. Vabbè, che adesso, aveva anche Benito Mussolini. Beh, scusami, adesso il paragone mi sembra un po' azzardato. Eccolo qua. Io ma sono scusa, stato 10 anni con ma che c'entra la faccia da schizofrenico? Tu sei stato 10 anni, aspetta, no, che interessante sono i sintomi, questo. Sono i sintomi medici degli schizofrenici, psicopatici, come li vuoi chiamare. No, tu, ma non ho capito bene, non ho capito bene questa cosa qua. Allora, tu sei stato per 10 anni con una schizofrenica, con una psicopatica. Sì, ma che vuol dire? Ma sì, non è normale. No, vabbè, ma lascia perdere quello che ho fatto. Ma questo è interessante. Questo è interessante. Giuseppe, se tu vedi lo sguardo di Benito Mussolini, che era un altro scemo, un altro schizofrenico. Ma che c'entra questo? Scusami. Dimmi te se la prima telefonata del venerdì delle 19:24. Ma è giusto, Angelo, da Roma. Deve essere una persona normale che ci dice che è stato per anni con una schizofrenica. Dimmi te se è normale. Comunque, oltre questo, Giuseppe, volevo dire che, poi parla solo con lui, giustamente, ma va bene. Volevo dire che ha ragione, somiglia, pure sul fatto che il fatto che credono in tanti a Padre ma chissà Pio, perché non ti ha scelto come interlocutore primario dalla parte della ragione, perché il mondo l'hanno cambiato sempre le minoranze, la maggioranza. Vabbè, non adesso, mai sì, questo qua ragione. Potrebbe essere un ragionamento anche alla Parenzo. Io dico solo una cosa, caro Parenzo, tu hai detto beh, dobbiamo avere rispetto per chi crede, no? Allora dobbiamo rispettare anche chi crede, che ne so, ai fantasmi, agli alieni, ai respirariani, ai diverso, no? E ti dirò una cosa meglio le no ti dirò uguali, un'altra cosa oltre Vanna Marchi ti dirò una cosa meglio, un altro signore, sai, con quello che indossa una specie di tunica bianca, no? Un signore che indossa una tunica. Meglio è meglio il divino Otelma. Meglio Otelma, almeno Otelma lo fa per gioco, per scherzo, per guadagnare. Sì, no, meglio Otelma di Padre Pio. Meglio, io credo più in Otelma che in Padre Pio. Mamma. Credo più nelle previsioni di Otelma. Ah, Dottore è andato in montagna, non c'è Dottore, preparato valigia. No, ma è molto meglio, ma stai scherzando? Almeno quello è in carne e ossa, è vivo. Cioè, a parte che è vivo, chi quello, è vivo? Otelma. Cioè, Otelma è un morto. Otelma è anche un po' matto, ma almeno lo fa per. È un po' matto. No, è matto. Un signore che ti dà le previsioni di quel che è già accaduto. Ma è meglio di Padre Pio. Ma sarà meglio di Padre Pio che ti illude di poter guarire e altre cose ancora. Scusami, no, sarà meglio di Padre Pio. Almeno quello non è che ti illude. Alfano, da ministro degli interni, sta avendo qualche difficoltà con il suo partito. Ma è meglio quello. È meglio Otelma di Padre Pio, ma tutta la vita, dai. Chi c'era, Angelo? Concludi il tuo prezioso intervento, Angelo. E guarda che questi sono veramente pericolosi. Chi crede in una religione è un fascista che esclude le altre religioni. Vabbè, adesso non esageriamo, un fascista. Ma dove c'è violenza? Ma non è vero, dai. Ma guarda, questo non è vero, dai, questo è un fascista addirittura. Non dire, no, più questa stupidaggine. Come ti posso dire, Giuseppe? Vabbè, è una forma di fanatismo, io questo te lo posso concedere, una forma di fanatismo, come dice Toscani. Io sono toscaniano da questo punto, non toscano, toscaniano. Tu sei una persona cinica, Giuseppe, che sotto sotto c'hai un cuore da paura, io t'ho capito. Vabbè, Angelo, ti abbraccio, ma come hai fatto a stare 10 anni con una schizofrenica psicopatica, scusa? Perché pensavo che l'amore cambiasse le cose. Ma come era? Ma la sua schizofrenia, la sua psicopatia, in che cosa si rivelava, in che cosa si... Fammi un esempio, subito, ecco, bravo, subito, fammi un esempio. Guarda, sì. Mangiavamo la sera, butto gli spaghetti, dopo 5 minuti mi faceva una scenata perché non l'avevo interpellata, cioè, e quindi spiegami, l'avevo prevaricata, cioè guarda, cambiava... Tipo, fammi... Cioè tu facevi gli spaghetti a casa, vi mettevate là e poi a un certo punto sbroccava, che diceva, non mi ha interpellato a fare gli spaghetti, urlava. Non mi ha interpellato, perché gli spaghetti? Io lo fai di gatoni. Ah, così, ma sbroccava. Ma facciamo i rigatori. Ma sbroccava. Sbroccava proprio. Sì, guarda, Giuseppe. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Io mi addormentavo la sera in paradiso e mi svegliavo alle 5 di mattina, vicino c'avevo il diavolo. Ma che faceva? Persona... Fammi un altro esempio, dai. Vuoi un altro esempio? Ok. La sera facevamo l'amore, facevamo una cosa, ti dico, sensazioni stupende, Giuseppe. Sì, la mattina alle 5 mi chiamava, oddio, hai tossito? Come tossiva mio padre? Perché lei sosteneva che il padre l'aveva, diciamo... pure, violentata, ecco, vabbè. Ecco. E quindi gli avevo ricordato il padre. Gli avevo e che faceva ricordato. Alle 5 di mattina? Che faceva? Mi metteva fuori dalla porta. Vabbè, ma come hai fatto 10 anni così? Che sei andato al manicomio? Giuseppe, infatti stavo andando al manicomio, Giuseppe. Però che te devo dire? Ci ho provato, Giuseppe. Purtroppo le cose ci devi passare. Che devi fare? Non ci sono medicine, schizofrenici. Parenzo, tu capisci, no, lo capisci come, no, ma in generale la capisci il come dramma cosa, di no? Questa dramma. Ciao Angelo, ciao. D'accordo. La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want? Il governatore del mondo De Luca assolto in appello, caro Parenzo. La sua ultima performance l'abbiamo raccolta, eccola qui. De Luca, governatore del mondo dell'universo. Così come porta male qualcuno che è membro del direttorio, forte della sua esperienza di steward alla tribuna autorità del San Paolo, si candida a governare l'Italia. Proposito, noto fra parentesi che da quando non frequenta più la tribuna del San Paolo, il Napoli ha avuto un'esplosione. Che stia sempre lontano, diciamo. Questo era rivolto a Di Maio, dei 5 Stelle, meraviglioso. Steward, senti, sì, Steward? Perché è vero che faceva, credo. Sì, apprendiamo dunque che i valorosi membri del famoso direttorio 5 Stelle, direttorio richiama epoche storiche di lacrime e sangue terribili, dopo il ghigliottinamento di Robespierre. Una mozione di sfiducia, io mi aspettavo sinceramente missili termonucleari che mi colpissero. E ho ascoltato una cosa flebile, gracile, deboluccia. Ma aspettavo bombe atomiche. Ho sentito, non so se si chiamano anche qui, i fifi, quelli che si accendono, un fifi. Fatto un leggero fischio, un po' di fumo e questo è tutto. Che voi eravate partiti con questa mozione di sfiducia, con questa iniziativa, immaginando un altro clima, un altro momento nel quale si poteva fare una bella campagna di propaganda politica. E invece sono capitati altri fatti in queste settimane che testimoniano che Dio c'è. Dio c'è. E il suo angelo vendicatore ha volato da Quarto a Marano, a Foriodischia. Dio c'è. Questa la trovo meravigliosa. Dio c'è. Dio c'è. No, a me è piaciuto Fifi. No, ma Dio c'è. Dio c'è, nel senso che ha colpito anche i grillini a Quarto. C'è. Stupendo. 800 24 00 24. Dove andiamo? Dov'era? Quello di prima l'avete recuperato? No, non c'è. Quello di Roma che ci voleva raccontare degli affitti, eccetera. Vabbè, Edoardo, Milano. Poi Gaetano, Francesco, Sergio. Vai, Gaetano. No, Edoardo, chi c'è? Edoardo, vai. Edoardo. Dimmi. Niente, io sono perfettamente d'accordo con la fucilazione preventiva dei politici. Ragazzi, ho capito, ma intendiamoci bene. Io non credo che Feltri volesse veramente fucilare i politici preventivamente. Cioè, questo lo diceva il plotone di esecuzione, il tribunale lo diceva Grillo durante la campagna elettorale. Adesso non lo direbbe più. Ma veramente tu vorresti fucilare i politici preventivamente? No, intendiamoci. Con la testa, allora, direi di sì. Con la testa prenderei i fucili a pallettoni, boom boom, in modo che non resti neanche una minima, benché minima traccia di questi scellerati che ci hanno portato alla rovina. No, non è con la testa, allora, col cuore lo diresti. Col cuore, scusami. Con la testa ovviamente dico di no, però non possiamo... amico mio, più. Però se il cuore ti dice di fucilare i politici, vai sotto là e prendi, fai, no? No, caro mio, è la stessa applica cosa. Applica quello che pensi. Non voglio i carabinieri, no, siamo... Allora, dobbiamo essere chiari, coerenti, e se vogliamo una cosa del genere, cioè che la politica italiana marcia venga eliminata, allora dovremmo trovare un filo comune. Tu hai ragione, non vuoi i carabinieri lì. Io ti dico, non voglio i politici corrotti, i politici marci. No, ma io non è che ho detto che non voglio i carabinieri, voglio il minimo. La sicurezza della salma di Padre Pio, la sicurezza della salma, che ovviamente, essendoci motivi di ordine pubblico, deve essere assicurata. Ragazzi, deve essere assicurata. Ma la pagasse il Vaticano con le guardie svizzere, la pagasse il Vaticano, non è roba nostra, lo decidono loro. I soldi che i politici impiegano, ma non è che, scusa. Ma non è che privilegi per andare a mangiare a Montecitorio, ma avere quello che c'entra, dai. E lo so, non sono soldi miei, soldi tuoi, sì, soldi, sì, degli, sì, italiani. Sì, certo, vabbè. E questo è il punto. Allora, il punto è come si fa a mandarli via? Ma a mandarli via chi? Chi vuoi mandare via tu? Chi vuoi mandare via? Stanno arrogando sempre di più il diritto di decidere cose che noi cittadini, se fossimo, se ci fosse richiesto, non voteremmo mai. Ma chi si sta arrogando? Ma non lo so, non ho capito, non c'è un soggetto. Vabbè, tu dici tutti i politici, il vero scandalo. No, amico mio, il vero scandalo. Tutti i politici italiani. Il vero scandalo sono le leggi. Sì, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Tutte, il vero scandalo sono le cose che si sono costruite intorno. E tutte, aspetta, tutte le norme che si sono costruite. Per esempio, questa storia qua dell'ex deputato, è una piccola cosa naturalmente, dell'ex deputato condannato che ha riottenuto il vitalizio con gli arretrati per un totale di oltre 30.000 euro, è perché la legge che si sono costruiti loro naturalmente glielo consente. Questo è il punto. Ciao, capito, ciao Edoardo, Gaetano, Gaetano Milano, Gaetano. Sì, premesso che cerco di praticare una religione non violenta e pacifica. E vabbè, allora? Sono rimasto molto male per le espressioni usate su Padre Pio, sì, sia certo, da te che ieri da Toscani. Sì, peccato, mi scrive un ascoltatore, aspetta, mi scrive un ascoltatore. Padre Pio per me è una manifestazione concreta di Dio, del divino. Sì. Non faccio del male a nessuno. Se ti piace, cosa, se ti piace così, se ti piace così, se ti piace a me così. Piace più così che se ti piace credere, se ti piace credere la tua idea, se ti piace credere che sia la manifestazione del divino, per me, per sì, carità. Ah, va preferisco bene. Se ti piace pensare che uno sì, sia la manifestazione del divino, uno può credere pure, può credere pure nella, puoi credere negli UFO. Puoi credere, perché non credi negli UFO? Anche gli UFO io vanno bene. Non posso anche credere, basta che siano non violenti. Ah, va bene, ma che c'entra? La violenza no, sta in tante cose, dai. Se una religione è pacifica. Anche fottere la gente è violenza, però, Dico in generale, dico, anche fottere la gente è violenza. È un'altra cosa. Anche turlupinare le persone, stiamo è violenza. Stiamo ragionando su un'idea. No, non sono idee. Infatti lo ha fatto Vanna Marchi. Perché devi essere intollerante? No, io sto dicendo nei confronti di chi crede in una religione. Io lo giudico, io non sono intollerante. Nessuno ti vuole mettere in galera. Nessuno ti vuole mettere in galera. Tu hai detto che siamo praticamente dei poveri coglioni. No, ma io posso pensare, che chi crede in Padre Pio, in capacità non so di che tipo di Padre Pio, per me è come se io come credere nella, non lo so, negli extraterrestri, negli UFO, se tu credi in poteri, nei respirariani, nei fantasmi, negli alieni. Ma se tu credi in poteri particolari su hotel, ma io ti rispetto. Io non credo in hotel, ma naturalmente sto dicendo che almeno quello ci gioca su queste cose, no? Almeno quello, almeno quella è una buffonata, come dire, a viso aperto. Almeno quella è una buffonata a viso aperto. Qualsiasi cosa che poi dopo ricavi soldi truffando le persone su queste credenze, sono d'accordo che... No, ma guarda che la truffa può essere anche non esplicita, Ci può essere dicendo che c'è una truffa dietro Padre Pio. Questo mi pare evidente, non è che lo dico solo io. Ma è evidente un corno, perché non mi pare evidente manco per niente. Tutta la vendita di queste robe qui, ma è chiaro che è una mezza truffa, no? Buddismo, ebraismo, vabbè, sull'Islam dei dubbi, che male ti faccio? Nessuno. Ma no, ma il male sta in tante... Non capisco perché devi trattare con questa intolleranza le persone. Ma non c'è nessuna intolleranza, ma non dire stupidaggini. Io sto dicendo semplicemente... Anche Toscani ieri è stato pesantino. Milioni di fedeli colpiti nella loro sensibilità. Noi siamo fatti così. Tu dici una cosa e io dico un'altra. Qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Tu dici una cosa e tu la pensi così e io invece piglio per il culo. Posso pigliare per il culo chi crede in Padre Pio? Oppure non mi è consentito. Oppure non mi è consentito pigliare per il culo. Ma lo stai facendo, però. Infatti, si risente, ci chiama, mi dice come la pensa e andiamo avanti. Dire che è vilipendio della religione. Sì, vilipendio, pure questo è vilipendio. Mettetemi in galera, dai, Sergio da Roma. Vilipendio della religione, ma come è incredibile. Guarda. Sì, Sergio, vai. Eccomi. Io sono uno di quei coglioni che stava in fila ieri sera. Va benissimo, se l'hai fatto, ma se l'hai fatto, mamma, se l'hai fatto e sei contento di farlo, nessuno ti dice niente. Ti potrò giudicare per un gesto pubblico o no? Ti potrò giudicare per il fatto che sei andato a fare una fila per andare a vedere la salma di Padre Pio incerata o no? Potrò giudicare questa cosa che è un fenomeno pubblico oppure se la giudico è un'offesa alla religione? Ma sì, è un'offesa. Ma non dire puttanate, dai, su. È un'offesa alla religione, si può fare in Italia. Ma quale offesa? Se mi fate parlare, verso ciò che riguarda le religioni pacifiste. Io non ho sentito, e vorrei invitare ad essere così blasfemo e offensivo. Vaticano ha provocato tanti morti nella storia, pacifista per modo di dire, dai. La Mecca, vi cagate sotto. No, non ci caghiamo. Io no, sotto. Parenzo si caga sotto, io no. No, ma io non la faccio non per paura delle reazioni, ma perché non lo ritengo rispettoso. Come l'ho detto di Charlie Hebdo, peraltro, non è che ho cambiato posizione. Non è la paura, la paura di che? E deboli con i forti. Amico mio, guarda che sull'Islam non mi puoi attaccare, non mi puoi attaccare sull'Islam perché ho la stessa posizione. Io mi sbellico quando vi sento, mi diverto, ma sulla religione un po' di sensibilità ci vorrebbe. Perché io ieri stavo in macchina e stavo andando lì a vedere Padre Pio, no? Sì. E mi sono sentito le cazzate che avete detto. Te. Ma no, le cazzate, opinioni. Siete state offensive, avete parlato di scorregge. Opinioni, lui ha parlato di scorregge, lui ha parlato di scorregge. Ma tu sei un grande, quindi... Io ridevo, certo, ridevo, ridevo. E l'hai detto anche tu. No, scorregge no, io non dico scorregge, non me ne frega niente. Perché voglio dire, lo pensi, no? No, non lo penso, penso che chi va là tre ore, quattro ore per vedere la salma di Padre Pio c'è qualcosa che non funziona nel cervello, però quello lo penso, amico mio. Non si parla di fila, ma si parla di fila. Tu hai bisogno, è una tua esigenza, è una tua esigenza. Come lì si prega, si prega, vabbè, prega, fa la fila per vedere la salma di Padre Pio, e vabbè, che ti devo dire, va bene, ma non ti sto, ma potrò giudicare questa cosa qui come una forma di... Ma ti ripeto, riuscite sempre in tutte le forme di comunicazione a dare addosso alla religione cattolica. Ma quando mai? Vi cagate sotto con l'Islam. Ma che ci caghiamo non sotto? Non avete coraggio. Con me non puoi dire nulla su questo, guarda. Proprio con me non puoi dire coraggio. Per me è una questione di rispetto ed è uguale. Allora usate lo stesso rispetto. Io uso lo stesso rispetto sia per l'Islam che per la religione cattolica. Sì, anche per i rettiliani, allora. Ma no, quello non li paragonerei mai, perché non li considero una religione. Ecco, invece i rettiliani vogliono essere rispettati anche loro. Li considero una religione, ma c'è la religione di Otelma, la religione di Otelma vuole essere rispettata anch'essa. Ma c'è anch'essa una differenza tra le cose, una cosa è una baracconata, una cosa è una cosa che c'è da millenni, scusa, Giuseppe, come si provincia fa di Milano. Stesso piano, Giuseppe, perché le cose sono il diverse. Tempo? Viene giù il tempo. No, che... il tempo, insomma, mi pare che le sia istituzioni, qualcosina in più. Le istituzioni, non cioè, solo, non Giuseppe, solo quello. Provincia di Milano, dai. Ciao Cruciani. Dimmi. Quando Parenzo dice che questa gente non fa male a nessuno, e invece fa del male enorme, perché questi qui sono i bigotti che poi vanno a votare Labinetti, Giovanardi, lì il Mulà. Ah, non è mica detto che chi ha il culto di Padre Pio per forza sì, vota Labinetti, Adinolfi, eccetera. Ma chi te l'ha che detto? È responsabile della retratezza schifosa di questo paese. Ma questo non lo so, ma dipende. Non è che, sì, non è che e tutti... votano quello lì, come si chiama quello lì, il Mulà? Chi il Mulà? Chi vota? Il Mulà, quello che lì... Chi? Non c'è nessun Mulà, è Mulà per modo di dire, dici? Non mi permetto, ma... Quale Mulà? Ma quale Mulà? Il direttore della Croce, come si chiama? Ma chi? Adinolfi? Adinolfi. Adinolfi non si è mai presentato alle elezioni, sì, forse come sì. Come no? Era parlamentare. Sì, è stato parlamentare subentrato per pochi mesi. Nella penisola arabica butterebbe gli omosessuali giù dai tetti dei palazzi. Vabbè, adesso non esageriamo, non è questo così. Non ma invece sì, sono gli integralisti. Questo sono... non credo, questo non... Questo lo credo. Peraltro, a proposito di ciò che è naturale, in natura o non natura, ho visto due documentari recentemente. Il leone si ingroppa tutte le leonesse. Sì. E allora? Scusa. E allora? Il cervo di Hokkaido si ingroppa tutte le cerve di Hokkaido. Ma allora il poliamore è naturalissimo. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao. Ciao. Antonio! Buonasera caro, buonasera. Come andiamo? Antonio Razzi in collegamento dall'Abruzzo, come andiamo? Come andiamo? Tutto bene, ieri sera tanti, ti posso dire una cosa Non mi fa, non fa la solita marchetta ai ristoranti, che c'è qua? No, beh, ieri sera, guarda, era 4 settimane che non mangiavo sagni e fagioli, ieri sera me ne sono mangiate 4 piatti. Vabbè, d'accordo, sagni e fagioli al ristorante. Solito ristorante. Solita marchetta, ristorante, sagni e ceci, gli spiedini. Sagni e ceci, bravo. Arrosticini. Solita marchetta, andiamo avanti, va bene. Va bene, figuriamoci. Vabbè, allora Antonio, io non ho capito una cosa, ma è vero che vai a Sanremo la settimana prossima? Sì, Gio giovedì sono lì, finalmente una prima volta, non sono mai andato. Oh, detto, ma dove sei? Là in prima fila, dove sei? Sono lì. E come l'hai rimediato? Ma che ti hanno invitato? No, hai rimediato un biglietto, che hai fatto? E Bagarini, che hai fatto? Ho rimediato due biglietti. Dai Bagarini, come hai fatto? No, grazie agli abruzzesi di Sanremo che mi ha invitato. Gli abruzzesi di Sanremo ti hanno invitato, dunque sarai là in prima fila, diciamo. Eh sì, c'è il presidente degli abruzzesi, Giuseppe Di Meco. Cioè ti sei imbucato praticamente. Ma con chi vai? Con la moglie? Vado con la moglie, sì, così certo. Almeno sono controllato. Quindi non puoi fare niente. A Sanremo, biglietto gratis, perfetto. Mi hanno invitato e io in coso, guarda, non vado mai gratis, perché gli ho portato tutti i CD a tutti gli abruzzesi. Però dimmi una cosa, ma che farai? Siccome sei lì in prima fila, perché non convinci Carlo Conti a chiamarti lì sul palco? Una volta che mi vede, è lui che se mi deve chiamare, se vuole mi chiama, io salgo, non è che ho paura di lui o dell'Eurovisione, io non ho paura di nessuno. Cioè, io allora, sono un uomo di mondo, non ho paura. L'anno scorso è andato un po' buca, no? Con la tua canzone, eccetera. Però quest'anno potresti dire a Carlo Conti: caro Carlo, sono lì in prima fila, mi sono imbucato con gli abruzzesi, no? Chiamami lì così facciamo un piccolo sketch, almeno fammi un cenno quando sei lì sul palco. C'è anche il senatore Razzi qui, no? Che dici? Dopo se mi dici vieni, io vado, che problema c'è? Mica non c'è problema. Senti, ma non ho capito, ma sai Parenzo che ancora una volta hanno offerto a Razzi di fare l'isola? Non è vero. Sì, ancora sì, ci hanno provato pure quest'anno, anche ma non è chiuso ancora il casting, ancora non è no, chiuso. No, lo so, però ma sei stato un po' tentato quest'anno. Sì, sono stato, però ho detto guarda, siccome la cura dimagrante ce l'ho fatto, ho diminuito 7 kg, non fa bisogno di andare lì. Sì, ho levato la pancia. Ma qua, scusa, cioè sei dimagrito 7 kg, sei dimagrito? No, beh, perché sto guardando di più all'appetito. Ieri sera mi sono mangiato 4 piatti di zagne fagiole e un paio di zagne cici, dopo però l'ho mantenuto ancora. Stamattina subito mi sono andato a controllare il peso. 82 kg. Senti, Anto, dimmi una cosa, io non ho capito una cosa, ma quanto ti hanno offerto per fare l'isola dei famosi? 150, 200, 300, quanto ti hanno offerto? Sì, una cosa del genere. No, quanto? No, non hanno più o meno quanto no, ballavano? Quanto no. Ballava? Metti tu la cifra. Addirittura detto, metti tu la cifra. Caspita. Io ho detto guarda, io non metto niente. Vabbè, amico mio, però se te davano mezzo milione, perché non ci andavi? Si poteva pure pensare, perché tanto non è lo stipendio da parlamentare o da senatore. Ma perché te frega? Mezzo milione, potevi mettere la cifra, mezzo milione, 300. Ti dimettevi da parlamento e te la andavi a fanculo. Che cazzo te ne frega? Lo so, però non sono fatto così, sai. Non... Ti mettevi voglio... in aspettativa, ma esiste l'aspettativa dei parlamentari? Ma quelli sono anche soldi pubblici. No, quello è privato. Ma a parte hai ragione, Giuseppe. Cioè? Siccome Mediaset è privato, non è soldi pubblici come la Rai. Però poi non andavi in Parlamento, succedeva un casino. Stavi lì mezzo nudo all'isola dei famosi e in Parlamento non andavi a votare, dai, su. No, a me, come dicevi tu, mettevi in aspettativa. Mi mettevo in aspettativa. Non si può fare, mi sa che non si può fare. Non si può fare, mi dovevo dimettere. Comunque. Però tu... io preferisco invece a lavorare per tutti gli italiani e non stare a pensare ai cazzi. Senti un po', ma tu come voterai la legge Cirinnà, caro Antonio? Ma io sono contrario. A che cosa sei contrario? Sono contrario, sono a favore sulle coppie civili, ci mancherebbe altro. Sulle unioni civili. Unioni civili. E poi la step come si dice step? Eh? Com'è che si dice step? La step. Come si dice, Antò? L'amico Cirivone, quella ha voluto dire quelle a far sapere che... Ma come si dice, Antò? Io non lo so. Ma dillo, provaci, no? Ma prova un attimo, Antò, prova a dirlo. Step child adoption. Vai bene, guarda, te lo dico io. Step child adoption. Io pure non sono una pippa pazzesca, però option. No, quella è un'altra cosa. Adoption. Vai con... Come fa? Allora ripeti, dai. Niente. Step down adoption. No, step child. Ma che cazzo ne so io. Ma parliamo italiano, stiamo parlando l'inglese, che cazzo te frega a noi dell'inglese? Sì, questo è scusa, Giuseppe. No, questo... Ma noi abbiamo la lingua più bella al mondo. ci dobbiamo andare a imbrogliare il cervello con altre lingue. Questo pure, no, non ha tutti i torti da questo punto di vista, però siccome l'hanno chiamata così bisogna che un po' la, lo impari. Allora, guarda, io ti ricordo, no, vai dritto, vai dritto. Qual è? Io non so niente, Joe Bach. Il sì, pacchetto, d'accordo. Lavoro, sì. Spacchetto, no? Come si dice anche in tedesco. Ma noi perché non lo sappiamo dire in italiano? Ma però dillo una volta, imparalo bene. Stepchild adoption. Ma non me ne frega niente. Vai, stepchild adoption, insisti. Non è difficile. Insisti, stepchild adoption. Option. No, ma non gliela fai, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare, dai. Comunque tu sei contrario all'adozione, questo è il punto, no? Io sono contrario all'adozione. Per sicurezza ho chiesto anche al mio amico Cristiano Maggiolto. Pure, ce l'hai chiamato? Hai chiamato Maggiolto? Ho chiamato a Cristiano, io dico, amico mio. Lui mi dice, quando viene a Milano, viene a... che andiamo a cena insieme, molto volentieri. Vabbè, hai chiamato Malgioglio, poi? Però io ho detto, guarda, ma tu che ne pensi di questo? Grande, grande. Pensa che trust di cervello. No, grande breve. Ha detto, per niente adozione, dice, che stiano insieme ci mancherebbe, no? Vabbè, certo, che scopino, però, che scopino, eccetera, no? Adozione, ma come fa due uomini? Sì. Chi fa la mamma? Chi fa la mamma? Chi fa la mamma? Che ne so, chi fa la mamma? Questo è il problema. Chi perché fa... il bambino quando va a scuola o va all'asilo, sì, magari lo va a accompagnare la mamma, sì, e se le vede sempre un papà, e se gli dice, e la mamma chi è? E la mamma chi è? E la mamma chi è? Tu sacramente qua. Cioè, tu dici, lo pigliano per il culo? Lo pigliano per il culo, povero bambino o bambina. Cioè, che gli dopo... dicono? Che gli dicono i compagni di classe? Si mettono a ridere, perché cosa gli dice? Che... era una volta che magari quando aveva 3-4 anni gli diceva, ma che vuole la serolina? Arriva la cicogna fra 9 mesi. E gli dice, ma poi vuole vedere una cosa, la cicogna, ma dove sta la cicogna? Allora magari una volta lo potevi dire. Ma che c'entra la cicogna adesso? Non c'era poca informazione, non c'era televisione, non c'era computer, non c'era tutte queste cose. Oggi, appena nata, già sa che là ci vuole un seme dell'uomo, senza l'uomo non si fa niente. Capito? Ma questo vabbè, non ho questo... E poi io ritengo pure. Ecco, adesso si sente meglio, sì. Ecco. Io ritengo pure che questo sistema che si sta facendo, questa legge Cirinna, sì, mi sembra che sia per uomini sessuali un po' ricchi. Ah, un po' ricchi, non ricchioni, ricchi, non ricchioni. Ma tu come li chiami? Ricchioni ogni tanto ti parte a te, ricchioni la cosa, sì, si può chiamare ricchioni, no? Ma. Io normale si dice ricchione niente, che normale niente. Normale non lo chiamo per niente perché non me ne frega niente. Vabbè, ma li chiami come ricchioni è un omosessuale, ma ricchioni pure lo usi, dai, ricchioni, ma è normale, nel gergo, no? Così, ma a tipo spotto magari state zitto, ricchione, capito? Ma sì, ma così niente, cioè, di grave. Così, però niente. No, vabbè, ho capito, due uomini no, ma due donne invece? Cioè due uomini non possono crescere. Dimmi. Due donne, detto tra noi no, sempre. Detto tra noi, ma ci sono milioni di telespettatori, sì, di persone che ascoltano. E magari puoi dire due donne hanno un bambino, una bambina, quella sicuramente la mamma. E dice quella sta fatta una fuoruscita, è venuto fuori lo bambino o sta, cioè o non sta mi di- allora, non ho capito, cioè l'adozione per le lesbiche sì. Per le lesbiche può andare bene. Ma potrebbe andare perché almeno è mamma sicura che l'ha portato. Ho capito. Cioè, per le lesbiche va bene, per i per gli uomini no. Per gli uomini. Ma detto tra noi. Sempre detto tra noi. E chi lo fa la mamma? Chi lo fa la mamma tra due uomini? Che ne so, magari c'è uno. Un problema. Magari c'è uno più passivo e uno più attivo, diciamo, no? Di solito. No. Uno più più femminile tra due uomini, magari c'è uno più... lo so, ma se la mette la gonnellina. Come se la mette la gonna? Non c'è bisogno di... Ma non è che... Fa la finta veramente che sei la mamma, ma dopo, quando si fa grande che non sono accorti che quello è un maschio. Vabbè, fermi tutti, torniamo per il finale con Antonio Razzi. Sì all'adozione tra due lesbiche, no all'adozione tra due uomini. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. La Zanzara. I'm racing. Well, here it's fine. And you got the time. Sono nella cella frigorifera del bar di Londra Est in cui lavoro e sto facendo delle scuregge che stanno per esplodere tutte le bottiglie che ci stanno. vi penso e vi amo. Cioè, questo cuoco è un cuoco di un professore. Ristorante a Londra, il quale sta ascoltando la zanzara e nello stesso tempo gli parte, capito? Siamo con Antonio Razzi, senatore di Forza Italia, rieletto segretario della Commissione Esteri del Senato. Per la prima volta la zanzara dopo mesi e mesi di assenza, no, in realtà poco più di un mese, ma comunque voterà contro. In partenza per Sanremo con la moglie. In partenza per Sanremo con la senza moglie, dove sarà la lira come al solito. Beh, no, ospitato dagli abruzzesi, dai, abruzzesi, su, agli abruzzesi, no. Hanno pagato il biglietto, dai, su. E vado in compagnia del maestro Pietro. Vabbè, adesso pure un'altra marchetta, la solita marchetta. Commerciante. Bene, metti bene il microfono lì accanto al telefono. Maestro, se no, non sto a viva voce, non sto solo all'orecchio. Queste si vede che non si sente bene, non lo so. Dimmi una cosa, ma tu che hai detto che con due lesbiche, perché c'è la madre, no? Un bambino può crescere tranquillamente. Io posso dire meglio due lesbiche da me da privato posso dire. Beh, da privato, se no da chi? Ma no, io posso pensare che un bambino vede due mamme, magari dice: quella è sicura mia mamma, no? Sicura è mia madre. Beh, invece due uomini dici che cazzo. Il bambino, la bambina, magari può pensare: beh, qui si sono fatte uno, con tutti fuori mano, si sono fatte uno. Scusa, ma che può succedere a sti bambini a scuola? Cioè, che gli dicono? Ricchione? Ma sicuramente sei figlio del ricchione. Che? Sicuramente non è bello, perché i bambini sono così molto intelligenti. Noi pensiamo che i bambini, se è piccolo, come dici in dialetto abruzzese, questo è piccirile, non capisci niente. E invece? Capisce ancora più dei grandi. E allora? Magari vengono presi per il culo, dall'espressione, vengono presi in giro da altri bambini, e che poi ci sarà la reazione dei bambini. Ma invece? Non è bello. Vabbè, non è bello. Ma scusa, ma non ho capito una cosa. Spiegami. I grandi nostri giudici che possono giudicare. Sì, ma spiegami una cosa, spiegami una cosa. Ma tu però... Da giovane, sempre quando eri con due lesbiche l'hai fatto qualche volta, con due lesbiche. Quello non è male. Era bello farlo insieme a due lesbiche, diciamo la verità. Diciamo la verità. Quando ce le vuoi. Quando era pure quello ha fatto. Beh, certo che ha fatto pure quello. Che voglio sempre prima di sposarmi. Sempre. È stato insieme a due donne che stavano insieme, a due lesbiche, diciamo la verità, no? Però sempre prima di sposare si può fare tutte quelle, perché quando si è giovane che uno ha pure mucchio e allora non sa che pensano, allora il mucchio, quello che capita quello che si dice da noi a do coglio dai, do coglio coglio. Comunque anche con due lesbiche sei stato, no, insieme? Ma l'ha imparato a Parenzo che significa do coglio coglio. Sì, lo sa, sì, do coglio coglio, dove prendo. Sa, do... comunque com'era con due lesbiche? Bene, si può dire male. Bei tempi. Sì, ma bei tempi, si ricorda la gioventù. E non tornano più, eh? E non tornano più. Quell'acqua passata nel bacino. E non tornano più. Purtroppo. Vabbè, io direi di concludere, caro Antonio, con questa cosa qui, con la pronuncia esatta di stepchild adoption. Ti devi sforzare, sono passati. Com'è? Stepchild adoption. No, stepchild adoption. Senti, Giuseppe. Parliamo in italiano o abruzzese, così è meglio. Ciao caro. Ragazzi, fra poco un amico tuo, Parenzo, qui, tra 7 minuti circa, 7 minuti, 8 minuti, un amico tuo qui incombe. Un amico tuo è venuto a fare una grande proposta alle aziende italiane produttrici di una cosa che si usa tutti i giorni nei nostri bagni. Davide da Roma, vai Davide. Mi incuriosisci, sai? Beh. Pronto? Dimmi. Cruciani, tu che sei esperto in materie omosessuali, volevo chiederti come si gestisce un coinquilino omosessuale ebreo? Come, tu hai un coinquilino, cioè, che sia vivi insieme a un coinquilino? Sì, coinquilino, dividi, ovviamente, diciamo la casa, dividi, sì, la casa. No, non solo con lui, fortunatamente. Vabbè, ci sono altre. Fortunatamente, che t'ha fatto? Che t'ha fatto? Insomma, ti pare che vivi in un bilocale omosessuale ebreo, insomma. Vabbè, insomma, che c'è di strano? Ma ti pare, scusa, che lui deve vivere con un coglione? Ma mettiti nei panni di questo coglione che deve vivere con, che deve vivere con un coglione, quindi mettiti nei panni suoi. Io sono con un coglione, appunto. Anzi, chiedo proprio a te, che sei bravo a gestire queste situazioni. Ma quale situazione? Ma non ho capito, che male ti ha fatto sto coinquilino gay ed ebreo? Allora, le cose, diciamo, che sono parse nei primi mesi di convivenza sono delle storie agghiaccianti che racconta. Vabbè, ma qual è il problema? Sono sue. Incredibile. Ma ho capito, però, cioè, io ero immacolato prima del suo arrivo, insomma. Si capisce. Ma che te ne frega a te? Non ho capito che cosa te ne frega, che sia. Ma uno ti racconta che beve la sborra dentro. No, l'angelo. No, ma dai, Davide, non ma fare secondo te, me questa è la storia vera. Sei un deficiente, dai. Ma smettila, dai. Carlo da Bologna, un deficiente, dai. Carlo, idiota. Carlo da Bologna, un cretino totale. Povero idiota. Carlo da Bologna. Rosani, Parenzo. Dai, dimmi. Qui è l'Istituto Luce. Dimmi. Vi comunico ufficialmente che siete sotto controllo del Minkul Pop. Sì. Nell'Italia fascista non è possibile una vostra trasmissione. Beh, sì, Rosani, nell'Italia lei è un liberista, un liberale plutocratico filozionista. Non le sare... sue affermazioni relativamente al Santissimo Padre Pio, tutti ritenuto dal Minkul Pop come incarnazione dell'italica religiosità, non sono accettabili. E lei, Parenzo, non credi di salvarsi con le sue ruffianamenti? Dunque? Ricordatevi, sì? Siete sotto il controllo del Minkul Pop. E quale sarebbe il Minkul Pop? Perché non hai studiato storia. Sì, ma lo so cos'è il Ministero della Cultura Popolare. Quale sarebbe sarebbe la metafora di questo tuo intervento, Carlo? Cosa volevi dire dicendo che c'è il Minkul Pop che ci controlla? Ma niente. Era tanto così per intervenire così. Sì. Però è bella anche questa un cosa. Un intervento simile, però non l'avresti fatto della trasmissione di Barisoni. No, perché non intervengono gli ascoltatori. Vabbè, ma anche per altre ragioni. No, però Carlo ci ha insegnato una cosa: che effettivamente uno qua può intervenire anche per dire qualche follia ogni tanto. Io toglierei la parola qualche. No, con grande sicurezza. Cioè, no, uno può intervenire anche per dire qualche follia. Mi pare che questo non siano freni inibitori. No, però quello di prima è semplicemente un cretino. Carlo è intervenuto, non c'aveva niente da dire, ha pensato di fare una cosa che non è riuscita benissimo, giusto? Però alla fine dice vabbè, non c'avevo giusto, ha confessato, suo, ha anche confessato alla fine, giusto Carlo? Confesso. Volevo anche intervenire su un'altra cosa. Soprattutto perché non c'hai niente da fare alle 20.07? È passata una bella giornata. Ascolto la zanzara per rilassarmi. Hai capito, Parenzo? Ma questa gente da rispettare. 19, sì, sì, sì, no, questo è molto gente da rispettare. No, volevo proporre, è un po' che ce l'ho sul gozzo. Sì. Per gli ascoltatori, ogni tanto fate sentire il peggio di Radio Padania. Sì, sì, adesso stasera. Va bene. Mi sono sentito toccato nel vivo e vorrei proporre per gli ascoltatori, i redattori, gli attori di Radio Padania, un premio Nobel. Sì. Il Nobel ai Maroni. Cioè? È in onore del primo soldato che accese il candelotto del celebro Nobel e lo tenne in mano. Dunque? Ho capito. Mamma mia, capito. Carlo, mamma mia. Ciao. No, io non l'ho capito. Ciao, sì, dai, premio ai due Maroni, dai. Giovanni da Novara, dai, Giovanni. C'è Andrea da Pesaro, vai. Sì, buonasera, scusatemi, sono un po' stravolto perché sono indignato. Perché cosa? Prima... Allora, io volevo chiedervi di commentare, perché io non c'ho più neanche le parole, da quanto sono agitato. Che è successo? Succedono tante. Le follie dei magistrati, quel magistrato di Trento, di cui non ricordo il nome, Barisoni prima l'ha detto, che ha assolto e reintegrato... Ci abbiamo parlato ieri noi con il giudice. Abbiamo parlato ieri col giudice che ha, reintegrato. Sì. Poi non l'abbiamo mandato in onda. Ha reintegrato. Ma le motivazioni della sentenza e di fronte a comportamenti da impuniti. Cioè, lui è stato condannato per corruzione. È stato condannato per corruzione. Non dentro l'ente pubblico, uno condannato in via definitiva per corruzione, concussione e violenza. Va a casa e va a lavorare nel privato. Che cazzo di messaggio ai cittadini? Cioè, la spiegazione, no, ma hai ragione. Le regole. Basta, non se ne può più. Vogliamo le forche in piazza. No, gente pacifica prima. Allora, Andrea, la questione purtroppo è di lana caprina. Cioè, nel senso che questo qua è stato condannato per vari reati, tra cui la corruzione, quando era a capo di un ente che era, credo, l'autostrada del Brennero. Ma che significa? Questo è un corrotto, è un concussore, è un ladro. Basta, non ci sono. Queste sono questioni dei magistrati raffinati che in latino chissà che cazzo avrà scritto in quella sentenza. No, ha scritto semplicemente, e c'è il cavillo che questo qua... Non lo farà più, ma vogliamo scherzare veramente? Ma sì, non è che non lo farà più. Lui dice che ha delle mansioni diverse adesso e non maneggia più denaro perché fa il geometra alla regione. E quindi in quella mansione ci può stare. In via definitiva, comunque la metti una follia, ma non è la follia, perché la follia è che la legge non consenta un licenziamento immediato dall'ente pubblico anche se tu sei stato condannato per corruzione in uno privato, posto che quell'ente là sia privato, perché lo Stato del Brennero in realtà sono all'83% controllate dal pubblico. No, ma io do ragione a te, per me è una follia. Per me è una follia, purtroppo ci sono le norme. Purtroppo i magistrati fanno quel cazzo che gli pare. Ma io da tempo che lo dico, è da tempo che lo dico che fanno il cazzo che vogliono. I magistrati fanno quello che gli pare, che sono la cassa di impuniti, poi ci sono quelli bravissimi. Però i magistrati sono per loro definizione la cassa di impuniti. E noi ci siamo rotti i coglioni. Io ho 55 anni, spero che torni alle brigate rosse, va bene? Speri, scusi? No, io ho 55 anni, spero che tornino le brigate rosse. Ma come speri che tornino le brigate rosse? Certo. Ma cosa cazzo c'entrano le brigate rosse col giudice di Trento che ha reintegrato il corrotto nell'amministrazione pubblica? Scusa, ci mancava oggi. Andrea, ma le brigate rosse hai detto? Le brigate rosse? Allora quelle nere, insomma basta. Ma no, ma hai detto una cosa gravissima. Insomma basta. Le brigate rosse hai detto, speri nelle pistole e nei fucili. Allora vai a prendere questo giudice, vai a sparargli sotto casa. Ho i figli. Certo. Le brigate rosse. Meno male che c'hai i figli. Ciao. Che non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto. La Zanzara. Allora, caro David, direttamente da Borgo Sesia. Aia. Direttamente, no, stai zitto che qui c'è una proposta molto bella, molto originale. Direttamente da Borgo Sesia, Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord, considerato da molti addirittura l'anti-Salvini. Considerato da molti l'anti-Salvini. Buonanno, buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Avvicinati un attimo al microfono. Sì, certo, è venuto qua, c'aveva delle cose da fare a Milano, ma soprattutto per presentarci una grande iniziativa. Ah, è vero, sì, me l'ha detto Moira. Sì, è vero. Moira, chi è Moira? Moira Orfei. Ma è morto. Offendi anche i morti. Gli eredi di Moira Orfei mi hanno detto che adesso arriverà il circo a Lampugnano, quindi ho capito perché. Dove? A Lampugnano. Dov'è Lampugnano? Non sai dove è Lampugnano? Sì, so dove è Lampugnano. Lampugnano c'è quello spazio enorme dove faranno il aspetta, Parenzo, che adesso è una cosa anche per te. Esatto. Allora, Gianluca Buonanno vuole fare una grande iniziativa per i suoi concittadini, cioè per i concittadini di Borgo Sesia. Spiegacelo un po', perché io vedo qua che tu c'hai davanti una carta igienica con una foto, caro. No, non solo per Borgo Sesia, per tutta la Valsesia dove io sono nato, cresciuto. Sì. Allora, siccome c'è tanta gente che ha difficoltà e poi non ha la soddisfazione, diciamo così, di fare un'azione nei confronti di una determinata persona, in questo caso della Merkel. Come la Merkel? Merkel. Ho detto Merkel, ma volevo dire deputato Merkel. Deputato europeo. Aspetta, fai finire. Finire. Allora, europeo, voglio dare una soddisfazione quotidiana a chi ne ha bisogno. Al mese, e quindi ho pensato di fare una carta igienica con stampata la faccia della Merkel. Ma è pazzo. Ecco, questo è ad esempio il pacchetto regalo che si può fare, perché una soddisfazione, siccome Renzi non riesce a darci una soddisfazione, e prima di Renzi aspetta. Letta e prima di Letta Monti nessuno ha dato soddisfazione perché la Merkel fa quello che vuole. Sì. Allora io ho pensato, prendiamocela da sole questa soddisfazione. E quindi una volta al giorno uno può andare in bagno e può pulirsi il culo, usare la carta igienica con la faccia della Merkel. Questo è un deputato europeo. Una soddisfazione per tutti. Allora, puliamoci il sedere con la faccia della Merkel. Allora, un deputato europeo pagato 13.000 euro al mese viaggia tra Bruxelles e Strasburgo e Milano, e Milano e Varallo, Cesia, aspetta, aspetta. In una radio e dice che ha prodotto un atto parlamentare, no, una carta d'accesso con la faccia di un capo di Stato. È un atto per me, questo. Deputato europeo. No, scusa, questo è il prodotto interno lordo che viene. Si parla sempre di prodotto interno lordo. Mamma mia, questo è un deputato europeo. Allora, però fai finire la proposta. Ma cosa c'è? La proposta. La proposta. Ma tu sei pazzo e baccato in testa. Ma guarda che bella idea, vogliamo farne anche una per te. No, ma io me la prendo con Cruciani che dice fai finire la proposta. No. Come fosse un ospite di Barisoni, capito? Come va? Dice fai finire la proposta, il mercato finanziario. No, aspetta, perché c'è una cosa fondamentale. Io sono deputato invece molto europeo. Favorevole a questa ma cosa. È normale, secondo te, che un deputato europeo faccia una carta da culo con la faccia di un capo di Stato estero? Ma cosa vuol dire? Europeo? Della carta igienica ne fa quello che vuole. Esatto. Può avere la soddisfazione visto che ci impongono tutto. Esatto. Ci impongono tutti i tedeschi. Puliamoci il culo con allora, per una volta al giorno, deputato. Anche il più povero dei poveri dice... Io mi pulisco il sedere alla faccia della Merkel. Oh, benissimo, però qui non basta solamente un rotolo, caro Gianluca. No, non basta. No. Come fare? Come fare? Sono qua per cercare un imprenditore, qualcuno che fabbrica carta igienica. Una roba da Confindustria questa, penso. No, questo non è carta igienica che metta su la faccia della Merkel, perché così io posso poi dare in beneficenza questi prodotti alla gente che ne ha bisogno. Oh, mi sembra molto interessante, cioè voglio riassumere così. Allora, si faccia avanti. No, ma è peggio l'altro di quell'altro. Si faccia avanti. Un imprenditore di questo settore, ovviamente, ce ne sono tantissimi, il costo è molto basso, si impegna a produrre per la comunità di Borgo Sesto, ovviamente verranno date ai poveri queste cose. Beh, certo, tutti quelli che chi ne ha bisogno, chi vuole tenersi un ricordo. Oppure distribuzione gratis, un ricordo. Io per esempio è bellissimo, guarda che avere in casa, come ricordo, questa carta igienica con la faccia della Merkel, anche solo come può souvenir. Come uso lassativo anche, perché se uno la vede intensamente magari può anche andare a cagare immediatamente. Ma che cosa vi aspettate dei rapporti tra Italia e Germania? Vabbè, sto dando una mano al nostro presidente del consiglio che trova da dire alla Germania. Siccome questa notizia uscirà sul Der Spiegel e altri giornali, speriamo uscirà sul Frankfurt Allgemeine. Se Renzi io immagino la signora Merkel, Frau, no? Domani mattina. Di prima mattina lei va a lavorare anche di domenica alle 7. Bene. Scende dal suo monolocale di 50 metri quadri, che aperta parentesi, a differenza dei nostri politici, se li paga lei. Le danno la rassegna stampa, va a comprare i giornali, perché lei se li compra direttamente, non come i nostri straccioni. Sì. Apre già Frankfurt Allgemeine. Buon anno, legge questa roba che un deputato europeo buon anno, chiama subito col telefono il suo addetto stampa, mi fa? E che fa? Dice Eden, un ding bo danoi, questo è più giapponese. Però magari si mette a ridere, no? Comunque, ragazzi, allora io dico una cosa: se Renzi attacca ogni giorno la Merkel dicendo che no, non può volere tutto, buon anno, l'attacca a modo suo. L'attacca a modo suo, offrendo a un imprenditore italiano sempre tutto vessato dalla Merkel l'opportunità concreta del fatto che questo qua ha speso una settimana anziché occuparsi delle cose europee. Sono al sedicesimo posto per produttività. Quale produttività? Questa del Parlamento di qual presenza. È la produttività? Quella della carta igienica. Fermi tutti che c'è il traffico adesso, che dobbiamo sei fare. Invidioso, David. C'è già il traffico, quando hai fatto il traffico? Non me ne sono accorto, ero fuori. Non c'è, hai capito? È già andato il traffico, Parenzo. No. Vabbè, allora io voglio dire, ritorniamo con la carta igienica della Merkel qui. Allora, l'offerta è a un imprenditore italiano del settore che per la popolazione, insomma, bisognosa, ma non solo, diciamo come distribuzione alla popolazione di Borgo Sesia, si impegni a offrire al sindaco Bonanno, ovviamente non è che se la inguatta Bonanno, qualche rotolo magari lo regala agli amici, però come souvenir... perché poi un italiano, un abitante, si possa la mattina dice: ah, che bello, mi pulisco il sedere con la faccia della con Merkel. Con queste che ci vogliono far fare tutto quello che hanno voglia. Capito, è una soddisfazione. Oh no, questa è una trovata, merita proprio alla Totò. Ho capito che è una tragedia. Ma perché una tragedia? È una tragedia il fatto ma che è io un politico alla Petrolini, di cui lui è lontano parente, mi sembra. No, mio nonno era la spalla di Petrolini. Ah, scusa, tuo nonno era la spalla di Petrolini. Ecco, appunto, manco Petrolini. Ho capito, ma c'è un modo, come dire, la teatralità di queste cose che ha anche un significato, un profondo significato politico. Profondo. Beh sì, perché c'è un attacco alla Merkel, ovviamente, che viene raffigurata nella carta igienica come la dittatrice dell'Europa. Fermi tutti. Ma se ti piace così. Fermi tutti. Caro Gianluca, parliamo anche d'altro, vai, dato che sei qua. Sì. Parenzo? Ma sì. L'hai proposto l'altro giorno per il Circo Medini, che è successo, te lo ricordi? Come no? Abbiamo parlato con la titolare del Circo Medini, quella che sarebbe stata accusata di aver messo un rom dentro una gabbia di serpenti, questa qui era la signora Medini, sì. E fai sentire la telefonata perché non ha accolto il mio invito. No, insomma, ha detto un'altra cosa. Fagliela sentire. No, che faccio sentire? Dura 4 perché? Minuti la telefonata, che faccio sentire? Dura 4 minuti? Dura 4 minuti. Che cosa c'è di più importante invece di questi 4 minuti? Ah no, c'è Weber. Tu hai detto addirittura, tra le altre cose, Buonanno ha detto al Parlamento Europeo l'altro giorno che questo Weber, chi è? Io non lo conosco, sto Weber, che c'ha in bocca? Merkel in bocca. È il capogruppo del Partito Popolare. Cioè, praticamente il feldmaresciallo della... Certo, l'uomo della Merkel. Cioè, se la Merkel è Hitler, quello che cos'è? Cioè, che può essere... Himmler, diciamo. Sì, cioè, una specie lo sogniamo di, noi, una come la Merkel. Allora, questo Weber che dice che c'ha in testa la figa, che hai detto? No, perché ha una pettinatura, cioè dei capelli, che quando si taglia i capelli, sì, veramente sembra che abbia... La figa in testa, sembra così, l'ho detto. Ma questo qui ci fa le lezioni ogni momento, ma almeno sistemati la testa, sennò sembra davvero che c'hai sempre in testa solo quello. poi possono arrabbiare anche gli omosessuali. Questo è. Guarda che questa cosa qua ridevano tutti, cioè dalla sinistra alla destra ridevano tutti perché è vero. Sì, però scusami, tu non sei pagato per far ridere. Cioè io chiedo scusa. Ridevano tutti perché io ho il coraggio di dire certe cose. Marco, quella del Circo Medini li vuole. No. Adesso io chiamo Togni, vediamo se riusciamo a prendere. Io dico una cosa, cioè, ma poi vedendo le foto, fai Weber sulle cose, prezzo. Vedi che in testa c'ha una specie di cespuglietto. Ma di questo parla il Parlamento Europeo? Sì, ha parlato. L'altro giorno ha fatto un intervento in cui ha detto, praticamente non ha detto parola figa, perché ancora non ha superato il Rubicone totale. Ho diciamo, detto, c'è una cosa che piace tanto ai maschietti, cioè, non tutti i maschietti, gran parte. Gliel'ha detto nell'aula plenaria del Parlamento Europeo. Cioè, ha detto che c'ha i capelli come la figa, tutti a ridere. I capelli come la figa in testa. Io dicevo, no, non è possibile. Poi sono andato a controllare la foto di questo Weber, sì, ed effettivamente c'ha questo ciuffetto che assomiglia un po'. E quando vai dal parrucchiere, poi è ancora peggio, perché è veramente così. Vi ricordate Ronaldo quando si era tagliato i capelli in una certa maniera? Mi ricordo che sembrava... È la stessa cosa. No, senti, ma la cosa incredibile è che lui e Cruciani si compiace. No, cioè, ma io rido, perché ma i soldi suoi finiscono, ma... i soldi suoi finiscono in queste cose qua, finiscono mal sprecati. Senti, non è che dobbiamo essere sempre seri, però quando uno ti fa sempre la morale, come Weber ti fa sempre la morale, mi è scappato di dirgli questa cosa qua. Senti una cosa, ma sai che hanno fatto i cessi per i profughi, sì, in Germania, hai visto che hanno fatto i cessi per i profughi, perché dicono i cessi normali non riescono... Perché sporcano dappertutto. Dici che per quello? Ma io ho sentito per quello. Ah, sporcano dappertutto, quindi fanno una cosa più grande così non si sbagliano. No, l'hanno fatto per tenere, per sedersi in maniera più, forse... Come si fa nella giungla. No, ma no. Tu dici che è per quello, dici. Ma non so io, dice non sono abituato ai no ma guarda che io adesso vi dico, ma non sto scherzando, da sindaco che è successo da sindaco parlando con alcune istituzioni italiane, sì, cioè mi hanno detto delle cose da rabbrividire, del tipo non sto scherzando, che molte donne di quelle che vengono in Italia poi alla fine si prostituiscono, perché nella loro mentalità, questo è quello che mi hanno detto, e per loro è una cosa normalissima. Quelli che invece vanno a toccare, per dire, il sedere, piuttosto che fanno altre... C'è stato pure un altro stupro. Un altro stupro, ma non generalizziamo, però capita. Per loro è una cosa abbastanza normale, perché le donne nel loro paese le trattano sostanzialmente così. Vabbè, sì. E questo vuol dire appunto che sono indietro di 1000 anni. In linea generale, ovviamente non tutti, però quelli che vengono qua ce ne sono una percentuale che ragionano come ancora 1000 anni fa. Senti, ma sai quel caso nuovo che c'è stato di condanna a 2 anni e 8 mesi per uno che ha sparato, no? Un tabaccaio che ha sparato a un ladro, no? Moldavo. Sì, sì. E il giudice l'ha condannato a 350.000 euro di indennità e più 2 anni e 8 mesi di carcere. E questo giudice cosa diresti? Cosa faresti a questo giudice? Ma mi verrebbe spontaneo dire, ma se lei fosse stato al posto del tabaccaio, che cosa avrebbe fatto? E questo è normale. E a questo punto, cioè, mi sembra veramente la legge al contrario. Invece sono felice per Stacchio, perché... Ah sì, che è stato prosciolto. È stato sì. prosciolto. Però anche qui in Italia, a seconda di chi guarda le cose, dà un giudizio piuttosto che un altro. Senti, tu sai cosa sono i vegani? Sì. Il veganesimo, ti piace il veganesimo? No, io mangio sempre carne, non sto a guardare... Sei il prototipo del vegano. No, al contrario, ma, no. Zero. Però le rispetto, eh. Vabbè, sì, figuriamoci. Invece l'utero in affitto, cos'è l'utero in affitto? È una cosa barbara? Direi proprio di sì. Ma cioè, è uno schifo, è uno schifo perché comunque... Ma cos'è? Usi tue donne. Ma concretamente, come funziona? Guarda, io non... Non lo so. No, no, non voglio e non voglio essere uno... Ma come funziona tecnicamente? Tecnicamente comunque sì, ci sono due donne, la quale una dà poi all'altra la possibilità... No, però mi hanno spiegato due ne mi usano. Mi hanno spiegato, poi dici... Mi hanno spiegato. Certo, mi hanno spiegato così. Ma non lo so, mi hanno spiegato che è la differenza. Si usano due donne, vai a vedere e vedrai che si usano due donne, non ne serve una sola. E comunque è una cosa dove le femministe italiane si dovrebbero vergognare, perché in questo caso come usano la donna come un oggetto e poi la stessa donna prende dei soldi. Ma che cos'è? È uno schifo. Ma guarda, non mi interessa neppure, perché a te magari può interessare, a me fa schifo e quindi non vieterei. Ma come funziona l'utero in affitto? Non si pensa ai bambini, si pensa solo all'interesse, a due finocchi piuttosto che a due lesbiche che decidono di fare determinate cose. Ma cosa due? Mi spieghi cos'è? Non lo sentivo da Mancini, dai tempi di Mancini, cioè pochi giorni fa in realtà. Cioè dici, si pensa solo a due finocchi che fanno i figli. No, vabbè, io come Sgarbi, no? Cioè diciamo le cose come la dice la gente, non sempre fare tutti... Può dire tranquillo. Ma perché dice uno offende, diciamo, da questo punto di vista due froci si può dire tranquillamente, due froci. Ma perché non so, io non è che sia una cosa brutta, ma sì, no, ma si può dire anche che Bonanno è un coglione, io dico, ma quello che dice la gente, Bonanno è un coglione. Pensa di Parenzo. Ma che male c'è? Guarda, non Parenzo, c'è mica niente di male, no? Ti mettiamo la foto sulla carta igienica insieme alla Merkel. Ma sì, ma Bonanno è un coglione in merda, ma che hai offeso? No, ma la guarda, guarda, io mica mi offendo. Ma io mica mi offendo. Ma scusa, ma perché mi io ho fatto anche il registro. Si può dire froci, si può dire o no? Secondo me sì. Sì, tu lo dici, due froci, quello è frocio, lo dici tranquillamente. Cioè, io vedo in macchina, magari ti viene un mio amico e mi dice: guarda quei due culattoni. E allora? Tu lo dici, anche tu lo ma dici. Ma perché non, cioè, tu dici culattoni, finocchi e froci? Ma io... sì, ma si può dire tranquillamente. Vabbè, un coglione, se tu non offendi. Ma mica le offendi, no? No, vabbè, no. Allora, scusa, quando mi vedono, Nanetto, deputato tascabile, cosa devo fare? Incazzarmi? Io mica mi incazzo. Per cui tu vedi due omosessuali e dici tranquillamente due culattoni. Due culattoni, no, posso due froci. No, posso dire due gay, quello che mi viene spontaneo in quel momento. Sì, sì, si può dire è tutto. È Luxuria ormai che ha detto auguri e figli trans, come dici alla Meloni? Auguri e figli trans. Dai, secondo me Luxuria ha qualche problema cerebrale. Dici? Sì. Perché? Ma perché ha questa cattiveria che gli viene fuori, forse perché vorrebbe farlo lei, non lo può fare. Insomma. Dici non lo può fare perché è un maschio. Ma perché bisogna attaccare? Ma voleva fare l'operazione, però non l'ha più fatta, lo sai, l'operazione quella di Zac. Che devo fare? Cioè, ognuno è libero di fare quello che crede, però lasciare stare le intimità degli altri. Vabbè, ciao Gianlu, ciao, mi raccomando, forza carta igienica. Forza Merkel, scusate Merkel. Ciao, pubblicità, vai. Ciao. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Cruciani, sono il ragazzo della ragazza che ha detto che le ispiri sesso violento, nonché quello che ti ha fatto il disegno della merda con la bandierina dell'ISIS, te lo ricordi? Beh, appena arriva a casa, la meno, la scopo e la meno. So che pagherò le conseguenze di questa cosa che sto per dire, perché il mio ragazzo ascolterà questo messaggio vocale. Ma non riesco più a tenermelo dentro. Cruciani, mi ispiri sesso violento con quell'atteggiamento da stronzo. Allora ragazzi, andiamo a Lecce. Gabriele, vai. Gabriele. Luciani. Dimmi. Mi senti? Io volevo solo fare un appunto. Ti seguo da sempre, però ultimamente sta cagando di fuori. Cioè, giudicare chi crede in una fede, chi crede in un'istituzione, perché va Dio è un'istituzione. Ti dovresti solo vergognare. Non ho capito bene, però ti sento male. Ti sento male. Ho capito solo, ti dovresti vergognare. Però se tu ti metti in una posizione più degna, oppure ti stacchi dal microfono, dal viva voce. No, non c'ho il microfono, non c'ho il microfono. Allora, mettiti bene fermo, così mi puoi insultare quanto vuoi, dimmi. No, non ti voglio insultare. Attaccare, insultare, quello, criticare, quello che è, dimmi. No, ti voglio solo criticare. Io ti ascolto sempre. Questa trasmissione è fantastica, solo che mo sta cagando di fuori. Perché ho detto una cosa che non è, su cui non sei d'accordo, solo per questo. No, ma non credo che non sia d'accordo solo io, c'è tanta gente che va bene, d'accordo. Ma infatti la gente può chiamare e tirarmi addosso le pietre, come dicevo con la famosa canzone, qual è il problema? No, non è. Ma se io voglio, se a me viene da pigliare per il culo, quelli che, penso che tu ti riferisci a quello da quello che ho capito prima, quelli che vanno lì a venerare Padre Pio, ma sarò padrone di pigliarli per il culo? Come piglio per il culo gli islamici, eccetera, eccetera, quelli che vanno alla Mecca e Parenzo mi ha criticato, eccetera, eccetera. Ma sì, perché c'è. E poi quando io auguro che tu stia sempre bene, ma se qualche volta ti dovessi trovare in difficoltà, io credo che pure tu, che sei tanto stronzo, guarderesti in cielo. Te lo assicuro. Ma ho capito, ma che c'entra guardare in cielo così come ultima razio e l'adorazione per Padre Pio? Dai, su, Gabriele. Ma se tu devi fare ascolto e devi criticare tanto per fare ascolto. Io non sto criticando, ma guarda che probabilmente perché siete fantastici. Però quando cagate di fuori, state andando. Vabbè, cagate di fuori solo perché ti abbiamo toccato Padre Pio, amico mio, dai, su, Marco, no, Latina, è, Marco da Latina, ho capito, Gabriele, Marco. Gruciani, dimmi. Sono 4 ore che ti sto aspettando, mi hai fatto sentire le stronzate di Razzi, di Buonanno, le stronzate di... Vai, adesso è il momento delle tue, dai. Ok, allora le dico io adesso le stronzate. Bravo, dimmi. Tu sei veramente un fenomeno da baraccone, io pensavo che mai... E tu arrivassi a fare una cosa del genere. È veramente incredibile quello che hai detto nei confronti di Padre Pio. Ma non perché io... Io poi non ho detto niente di strano nei confronti di Padre Pio. Cioè, su Padre Pio c'è tutta una leggenda. C'è tutta una leggenda. Guarda, amico mio, Padre Agostino Gemelli, adesso non scendiamo nei dettagli che la gente non ne frega niente. Padre Agostino Gemelli, Padre Giovanni XXIII non lo poteva vedere. Dai, su, c'è tutta una leggenda anche del Vaticano negativa sulla veridicità delle stimate di Padre Pio, eccetera, eccetera, Certo, per tanti anni è stato se quelli lo consideravano, lo consideravano un cialtrone, non lo posso dire io, che peraltro non lo dico nemmeno. Posso intervenire io? La Chiesa ha fatto un mea culpa inerente a quello che è successo in Eretta. Fammi finire, perché sono stato mezz'ora, 40 minuti a sentire le stronzate di mezzo paese. Potevi per attaccare. Dire due cose. No, dimmi. Di due cose, ma sicuramente io invito tutti quanti i radioascoltatori di Radio 24, i cattolici, i credenti, a non seguirti più, perché è una cosa allucinante quello che hai detto. Figurati, se non ascoltano... Se non ascoltano le stronzate che dicono altre persone, figure ascoltano a me. Ma che vuol dire le stronzate? Io ho semplicemente espresso delle critiche. Che tu dici certe cose così gravi. Ma quali sarebbero le cose gravi? Io invito le persone di radio, io ho detto gli spacciatori di non ascoltarti più. Vabbè, d'accordo. Perché è una cosa indegna quello che comunque sacco tu di hai fatto. Un sacco di gente ci ha provato e non c'è mai riuscita. Io ho detto che gli spacciatori di Padre Pio sono come Vanna Marchi. Vanna Marchi. Dico in maniera provocatoria, come fai tu e provochi gli altri, ma se uno ti dice poi cioè arrivare a dire certe frasi è fuori luogo, comunque sei un grandissimo fenomeno da baraccone, ti voglio bene, ma tra l'altro i religiosi che esigono grande rispetto, i cristiani che esigono grande rispetto per Padre Pio, E poi invece non lo danno magari ai vivi, cioè ai gay, capito? Ma non è quello il problema. Io ho rispetto per i gay, per le lesbiche, ognuno ha la sua, poi la carrozza, come si dice a Roma, è la sua, ci fa salire chi gli pare. Ma svilire sì, è svilente quello che tu fai nei confronti delle persone che credono in Padre se Pio. Tu, se te ti, se te ti va di fare tre ore io me la tengo cara, una reliquia, se c'è la reliquia, se credi nelle reliquie, se credi nelle reliquie, ma sono affari tuoi. Posso pensare che chi crede nelle reliquie c'è qualcosa che non funziona nel cervello o no, amico mio? Ma sì, poi magari è una bravissima persona. Hai dato dei coglioni a tutti quanti quelli che sono andati a sentire a seguire il feretro di Padre Pio. Allora, tu sei una persona spettacolare, sei fantastico perché sei un sì, perché tu sei un anarchico, ci sta, ok, però puoi permettere a me di dire che le persone credenti di Padre Pio, le persone cattoliche, di cambiare canale e non ascoltarti più? Cioè, tu provochi tutte le sere provochi le persone, no? E le provochi perché fa parte del gioco, ci sta, ci sta. Ma è svilente dire delle frasi così pesanti nei confronti dei credenti. Vabbè, dei abbiamo cattolici. Capito. Ciao Marco, santo da Torino. Ciao, santo da Torino. Ecco, ci voleva pure il santo. Santo da Torino, vai. ciao Cruciani. Ciao. Dimmi. Io volevo testimoniare. Sì, però amico mio, non ti puoi mettere col viva voce, guarda. Non ne posso più. Amico mio, toglilo quando intervieni poi, no? Toglilo sto viva voce, sta cuffietta, dai. Sei preso una va bene stare in viva voce quando uno non interviene, per carità, mica devi stare col telefono così, ma una volta che intervieni toglilo, no? Mi senti meglio? Sì, dai, dimmi. Ok, volevo dare la mia testimonianza, avendo avuto una fidanzata conosciuta in vacanza a Ibiza, olandese, e quando sono andato a trovarla a casa, lei era imbarazzata a presentarmi che aveva due mamme. E lei aveva molto imbarazzo perché sarà stata imbarazzata. Inerente se uno è d'accordo sull'adozione dei gay. Questa testimonianza, cioè, no, io sono contrario a dare l'adozione ai gay perché è contro natura. Più che altro, quando crescono questi bambini avranno già dei seri problemi a relazionarsi con gli altri. Ma che fai, lo psicologo? Non è che faccia psicologo. Così, però... un'intuizione tua. Pensi che... Non è un'intuizione mia. Io, se ti ricordi quando eri bambino, io per esempio quando ero bambino, già perché uno era diverso, due siciliani, fratello e sorella, erano arrivati dopo, la scuola era incominciata in prima elementare, erano arrivati un mese dopo, tutti perché erano con l'accento siciliano, si erano scagliati. Tu stai paragonando il la diversità. No, ho capito, ma la diversità, ma siamo tutti un po' diversi, volendo, anche i figli dei separati, allora, ma che vuol dire i figli dei separati, i figli delle coppie omosessuali, i figli, che ne so, quelli che dal sud venivano, ormai non c'è più questa cosa del sud. Ma perché voi volete pensare che dobbiamo essere tutti uguali? Ci sono delle situazioni diverse che si possono creare. Parenzo, perché non imbarazzo? Ma perché devi dire imbarazzo? Ma già l'insegnante, la maestra... È la società che gli crea imbarazzo. Sono discorsi come i tuoi che possono creare imbarazzo. Cosa? Sono discorsi come i tuoi che possono creare imbarazzo. In realtà il bambino di per sé non ha nessun imbarazzo. È l'ambiente circostante, come il tuo pensiero, che gli può far creare imbarazzo. Ma non sono tutti intelligenti che possono stare a spiegare esattamente bene la dinamica di perché ha due mamme o due papà, ok? Ogni famiglia ha dei figli, dipende la loro cultura quale è, per cui non potrà dare degli insegnamenti ben specifici. E ci saranno già queste disuguaglianze da quando sono bambini. Vabbè, e non ciao va bene. Santo, ciao. A conclusione di una settimana in cui si è parlato moltissimo di coppie gay, adozioni, la legge Cirinnà, eccetera, eccetera, a modo nostro naturalmente ne abbiamo parlato, ma anche di Padre Pio, vorrei farvi sentire l'intervento, Parezzo sarà contento, del filosofo Umberto Galimberti, no? Oggi tornerà la settimana prossima. Ottimo Galimberti. Allora, Galimberti ha dato una lezione, secondo me, ma questa è la mia idea, io sono totalmente d'accordo con Galimberti, quando ha offerto alla platea ed è diventato l'idolo della comunità omosessuale, la sua spiegazione sul cattolici. coppie gay, eccetera, eccetera. Sentite. Che la smettano di dire che la famiglia è fatta di un uomo e di una donna, perché questa è una visione fondamentalmente materialista, difesa dai cattolici che parlano sempre di spirito, perché se il criterio dello stare insieme è semplicemente quello di mettere al mondo i figli, allora è il materialismo più bieco questo, mentre lo stare insieme ha anche il significato di volersi bene, di dedicarsi a un'opera educativa, perché i figli sono figli non perché vai a letto con una donna e la donna va a letto con un uomo, sono figli perché li cresci. Beh, la trovo stupenda questa cosa qui. Anche un'altra, aspetta. Io posso regalare un rene, posso regalare il mio midollo spinale e un altro regalo all'utero se vuol far felice una coppia. Non vedo questo grande problema. In fondo a stabilire le relazioni è sostanzialmente la relazione affettiva, cioè l'amore. Smettiamo di pensare che gli omosessuali siano sostanzialmente sessuali. Innanzitutto sono affettivi, hanno delle relazioni che, di convivenza significativi esattamente come le famiglie eterosessuali, possono benissimo adottare bambini perché non è mica detto che due persone dello stesso sesso siano cattivi e i bambini hanno bisogno di amore. Poi fa un discorso molto interessante. Perché la tecnica non può intervenire sulla nascita? No, perché diceva prima, perché donare il midollo sì e l'utero no? Cioè, perché la tecnica non può intervenire sulla nascita? Da un punto di vista, no, come ma dire, è così, ha ragione lui. Ma ha ragione lui. Della logica, senti, ha ragione. Senti che ti faccio finire con Galimberti stasera. Ti faccio chiudere con Galimberti, così non mi rompi più i coglioni. Bravo. E ai cattolici vorrei ricordare di essere un po' coerenti con se stessi. Io mi domando per quale ragione la tecnica non deve intervenire in ordine alle nascite. Sto pensando alla fecondazione omologa, eterologa e tutte quelle cose lì. Poi quando uno muore, tecnica go-go. Tipo Eluana Englaro. Allora lì basta, non si può più morire di morte naturale. Bisogna nascere in modo naturale, ma bisogna morire in modo tecnico. E mettetevi d'accordo con voi stessi, per favore. No, gente tenuta in vita in tutti i modi, no? Tenuta in vita con tutti i macchinari possibili. Però la tecnica non può intervenire sulla nascita. Ma andate a fare in culo, dai. Adesso lo dico non come lo direbbe Galimberti. Questo non l'ha detto il filosofo. Ma più o meno però. Lo dico io, però. Non lo dico, me lo dice il filosofo Cruciani, però. Il filosofo sì. Cruciani lo dice. E che cazzo, dai. Buonanotte. Gabriele, provincia di Varese. Fermo. Che cosa Gabriele, vuole? Fermo. Eccomi qua. Devo andare dai, a cena. Grandissimo, questo è molto interessante. Molto. Gabriele, senti. Allora, sì. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con lei su tutto il discorso fatto adesso e con Galimberti, ma tutta e la vita, quello, dai. Anche se questo non è il mio intervento, è tutto quello che è il discorso di Padre Pio e questi cattolici che, porca miseria, a noi non la perdonano. Se uno è un laico, un ateo, oppure appartiene a un'altra religione, allora non gliela perdonano. Loro invece va bene. No, non si può fare nemmeno una piccola critica sulla devozione a Padre Pio, sull'aspetto medievale di questa cosa. Non si può dire niente, mentre sono stati scritti libri e tomi. Lo stesso Vaticano era contro Padre Pio. Io non posso dire niente contro Padre Pio. Le stigmate. Anzi, le stigmate. Le stigmate. Ma di che parliamo? Le stigmate. Ma dai, su. Uno non può dire che è una follia. Lorenzo crede alle stimmate, è una cosa incredibile. Sono stato costretto a sentire in due giorni che Parenzo ha rispetto delle stimmate. Non capite voi? Le stimmate perché è di un altro gruppo. Ma che c'entra quello? Ma che c'entra di altre fedi se non della propria? Diciamo quindi. Io non credo alle stimmate. Dimmi Gabriele, dai. E allora se non credi alle stimmate non puoi credere in tutta quella buffonata lì. Rispetto chi ci crede. Ah, rispetti chi ci crede. Ma guarda, è incredibile. Ma noi non dico, non è che non rispetto. Posso dire che è una non buffonata ci credo, o no? Perché non dici che è una buffonata? Rispetto quelli che ci credono. Vabbè, dimmi, dai, Gabriele, forza. No, però il mio intervento era per così, una pura curiosità. Visto che ogni tanto riprende con la storia dei vegani, ma che gli hanno fatto di male i vegani? Allora, guardi, io sono un nutrizionista, ho più di 60 anni, dal 74 sono vegano e sono normalissimo e la penso come lei. Ma tu fai tu non ho capito, sei nutrizionista ecco, e vegano? Sei vegano dal 1974. Beh, ragazzi, questa è una grande storia per la settimana prossima. Benissimo. Gabriele, allora, sei nutrizionista e vegano da più di 40 anni. Siamo normalissimi. Beh, sono, nessuno dice che sei normale. Brucavi l'erba, anche tu brucavi l'erba? Hai mai brucato l'erba? No, ecco, per esempio, prendere quella è una folle, non è una vegana. Quella, mi pare che lei l'abbia chiamata nazi. Ha indossato dei golf di lana? Indossi dei golf di lana? No, ora no. Ah, ora l'ho fatto no. Prima del 74. Ora no, perché adesso ci sono le pecore che muoiono. Lo so. Ma no, vabbè, adesso non fanatizziamo. Ma lo vedi che anche tu hai qualche grammo di follia. Settimana prossima ti invito. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dio ti benedica. Ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.